Settembre 2006. Ellero 1. In difesa della fede cristiana, indagare prima di condannare. Spot. Conosci un libro di Tertulliano chiamato Apologeticum? E un libro nel quale Tertulliano, 1800 anni fa, difende i cristiani che vengono torturati e uccisi per la loro fede. Io sono convinto che sia un libro attuale, perché anche oggi i cristiani vengono perseguitati in tutte le parti del mondo. Perciò alla memoria dei martiri per Cristo ho dedicato 15 trasmissioni. Ascoltami assieme ai tuoi amici su CRCFM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Oggi iniziamo una serie di trasmissioni in difesa della fede cristiana, per incoraggiare tutti coloro che soffrono per il nome di Gesù. Dopo 2000 anni i cristiani subiscono ancora persecuzioni e vengono assassinati in varie parti del mondo. Non è l'opinione di un pessimista, perché questa realtà viene consumata non solo nei paesi totalitari dove non vi è libertà di espressione religiosa, ma bensì anche nei luoghi dove si ritiene di professare la fede cristiana con una tolleranza religiosa. Ne è un esempio plateale meno incancellabile nella storia dell'umanità meno il cattolicesimo romano con le sue spietate persecuzioni e un certo protestantesimo tale, per ragioni politiche. Proprio perché i cristiani vengono perseguitati, torturati e uccisi, proprio perché vi è confusione in merito a chi è un cristiano, è bene ed opportuno definire innanzitutto chi sono coloro che sono oggetto di tanto odio. Un cristiano è colui che ha realizzato per un atto di fede compiuto una volta per sempre la nuova nascita. È colui che ha una relazione giornaliera con il suo Salvatore Gesù Cristo mediante la lettura della parola di Dio e la preghiera. È colui che ha una vita comunitaria con coloro che sono figli di Dio. Inoltre il cristiano è chi testimonia agli altri con franchezza che solo Gesù è degno di essere adorato, servito, e che è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. È colui che non segue la morale della società quando questa è contraria alla volontà di Dio. È colui che ogni giorno ricorda a se stesso che è solamente di passaggio in questo mondo e attende di andare alla presenza di Dio per ricevere i premi che sono stati preparati per coloro che amano Cristo Gesù più della loro stessa vita. Questo è il cristiano. E meno di questo, secondo la parola di Dio, nessuno ha il diritto di dichiararsi cristiano. Di conseguenza, non è sufficiente per essere cristiano appartenere ad una religione più o meno professante il cristianesimo. Non è sufficiente credere in Dio o in Cristo perché ci credono anche i demoni. Non è sufficiente leggere la Bibbia e pregare perché anche l'Apostolo Paolo leggeva i testi sacri e pregava, ma non era un cristiano. Un cristiano dunque è più di un credente che ha posto fede in Cristo, ma è colui che ha una precisa fede scaturita dalla sola parola di Dio e vive ogni giorno secondo i comandamenti di Cristo così come sono espressi nella Santa Scrittura. Seppure amino tutti gli uomini, seppure abbiano un comportamento ineccepibile, questi cristiani da sempre sono stati, e sono anche oggi, oggetto delle più feroci persecuzioni. Per questa insensata e ingiusta persecuzione, per la prima volta nel corso dei secoli meno, e cioè circa 200 anni dopo Cristo, si è elevata una voce in difesa dei cristiani che non si è più spenta, e che a mio avviso occorre riprendere in esame dato che ancora oggi i cristiani sono perseguitati ingiustamente. Mi rifaccio ad uno scritto di Tertulliano. Una ringa in difesa dei cristiani, purtroppo, non molto nota alla maggioranza. Tertulliano è considerato uno dei padri della Chiesa, vissuto dal 160 al 220 d.C., e poiché i cristiani venivano barbaramente perseguitati e uccisi, scrisse un trattato dal nome Apologeticum, che sottintende il sostantivo discorso. Di lui e del suo scritto è stato detto: temperamento focoso, meridionale diremmo noi oggi, ed africano dicevasi allora. Tertulliano è tratto dalla polemica, angolosa e permeata di sarcasmo, che egli affronta con un'energia divampante, maltrattenuta entro i limiti imposti dalla tesi sostenuta e dagli argomenti chiamati a convalidarla. Se anche il suo stile può apparire sovente barocco per la predilezione delle frasi a cascata, di quelle rimate e ritmate, della contrapposizione di verbi tratti dalla stessa radice, con opposto significato, e dell'uso di tutte le forme proprie al discorso retorico, è però sempre in lui una onesta e maltrattenuta passione da far impallidire al confronto gli scritti retorici di Cicerone, sempre controllato nello stile ma rigido e sovente freddo pur nella discussione polemica. Per quanto le opinioni in merito a Tertulliano e alla sua opera Apologeticum siano diverse, gli storici sono comunque d'accordo che questa breve difesa in favore dei cristiani sia non solo l'opera più celebre di Tertulliano, ma anche il primo capolavoro della letteratura cristiana in lingua latina. Al di là di queste valutazioni, per quanto mi riguarda, l'Apologeticum di Tertulliano è uno scritto che merita di essere preso seriamente in visione perché le ragioni addotte per difendere i cristiani e il cristianesimo sono valide ancora oggi. Anzi, a dire il vero, mi stupisco del fatto che, dove i cristiani vengono perseguitati, non si avanzino anche le ragioni che proposte da Tertulliano, ragioni che prenderemo in esame. Nella sua opera di difesa Apologeticum, Tertulliano dimostrerà innanzitutto che i crimini segreti dei cristiani non esistono, mentre sono commessi dai loro accusatori. Poi segue, dimostrando che i cristiani non sono punibili, che gli dei pagani non esistono, che i cristiani non sono ostili all'imperatore e neppure alla società. Confutate tutte le accuse, Tertulliano termina la sua arringa istruendo i suoi lettori intorno alle caratteristiche della religione cristiana, della sua morale e dei suoi riti. Perché è importante che il credente sappia rispondere adeguatamente a chi lo accusa ingiustamente di cose false? È giusto rispondere per le rime quando si è accusati illegalmente? Alcuni potrebbero ritenere che farsi le proprie ragioni non rientri nella morale cristiana, eppure la parola di Dio, che è sempre molto realista ed umana, vede opportuno rispondere per le rime quando è il momento. A volte sarà opportuno non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, per non diventare come lui. Mentre altre volte sarà necessario rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non creda di essere saggio. Proverbi 26. 4 a 5. Così è come intentare una causa contro il prossimo. Innanzitutto è necessario non intentare causa contro nessuno senza motivo se non ti ha fatto alcun male. Proverbi 3.30. E anche perché il primo a perorare la propria causa sembra che abbia ragione. Ma viene poi l'altro e lo esamina. Proverbi 18.17. Ecco perché il libro dei Proverbi dà questo sensato consiglio. Non muovere causa troppo in fretta, perché alla fine tu non sappia cosa fare quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. Discuti la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto di un altro, affinché chi ti ascolta non getti discredito su di te e la tua reputazione venga per sempre macchiata. Proverbi 25.8.10. La sobrietà dunque vale in ogni cosa. Ma quando si subiscono violenze e discriminazioni, quando si è imprigionati, linciati, assassinati, solo perché si è cristiani, allora è indispensabile elevare una voce di difesa per onorare il vero Dio trino. La parola di Dio lo dice espressamente. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. Proverbi 25.26. L'acqua è stata creata per il bene dell'uomo e per dissetarlo, ma quando è sporca, infetta, inquinata, essa non serve più allo scopo per il quale è stata creata. Diventa inutile per l'uomo e dannosa. Così è del giusto cristiano. Quando non è in grado di rispondere adeguatamente o di farsi le proprie ragioni nei momenti di ingiustizia, non produce benessere al prossimo. Quando Gesù venne schiaffeggiato da una delle guardie del sommo sacerdote per aver dato una risposta, chiese: «Se ho parlato male, mostra dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti?» Giovanni 18.23. Così pure Paolo, quando venne disteso per terra per essere frustrato, disse al centurione che era presente: «Vi è lecito flagellare un cittadino romano, non ancora condannato». Atti 22.25. È dunque più che lecito al cristiano chiedere ai suoi aguzzini le ragioni del loro comportamento ingiusto e per questo le arringhe in difesa del cristianesimo di Tertulliano sono più che opportune. Così Tertulliano inizia la sua difesa. Se mi è consentito a voi, magistrati dell'impero romano, che avete il vostro seggio di giudici in luogo scoperto ed elevato, quasi al sommo della città, se mi è consentito di esaminare pubblicamente, di indagare alla presenza di tutti, che cosa sia di vero nella questione dei cristiani, se l'odio per questa setta, punto chiude la bocca alla difesa, sia concesso alla verità di pervenire alle vostre orecchie per la via, sia pure segreta, di una muta difesa. La verità non chiede grazia per se stessa, giacché non si meraviglia della propria condizione. Essa sa di vivere da straniera sulla terra, di trovare facilmente dei nemici fra gli estranei, ma sa anche di avere nei cieli la propria famiglia, la propria dimora, la speranza, il credito, l'autorità. Frattanto, una sola cosa essa desidera: di non venir condannata senza essere conosciuta. Che cosa hanno in questo caso da perdere le vostre leggi, che sono sovrane nel loro regno se la verità è ascoltata? La loro potenza sarà forse degna di maggior gloria se esse condanneranno la verità senza neppure averla ascoltata, ma se, senza neppure averla ascoltata, la condanneranno oltre alla odiosità per l'atto iniquo, esse susciteranno il sospetto di aver consapevolezza di qualcosa che non consente loro di ascoltare ciò che non potrebbero condannare dopo aver ascoltato. Questa è dunque la prima accusa che noi formuliamo contro di voi: l'iniquità dell'odio vostro per il solo nome di cristiano. Come ha fatto Tertulliano, i cristiani che vengono ingiustamente perseguitati hanno il diritto di chiedere ai loro aguzzini di informarsi prima di giudicare in modo illegale. Queste non sono parole retoriche, perché quando ero giovane e si battezzavano le persone che avevano posta fede in Cristo, venivamo perseguitati, perché si pensava che battezzassero le persone nude portando una croce sulle spalle. L'odio o l'avversione verso la verità suscita sempre una fantasia malvagia e diabolica, e per questo i cristiani non solo chiedono ai persecutori le ragioni del loro malvagio comportamento, ma, come Tertulliano, hanno il diritto di dire: questa è dunque la prima accusa che noi formuliamo contro di voi, l'iniquità dell'odio vostro per il solo nome di cristiano. Voglio ricordare che in Eritrea, nel 2005, 75 credenti evangelici sono stati messi in prigione solo perché leggevano la Bibbia e pregavano durante l'ora di libertà. Il giusto non deve vacillare contro l'empio, ma a testa alta chiede ragione dell'ingiustizia rivolta nei suoi confronti, e questo non solo per essere giustificato, ma soprattutto perché sia una testimonianza della verità. In definitiva, lo scopo ultimo del cristiano è quello di rendere testimonianza alla verità, sia con la vita sia con la morte. Termino qui per oggi le mie riflessioni, a risentirci per ascoltare ancora questa bellissima difesa del cristianesimo di Tertulliano. 2. In difesa della fede cristiana, indagare prima di condannare. Spot: sei un cristiano che soffri per la tua fede. Nel testimoniare di Cristo vieni deriso? Vuoi rispondere in modo persuasivo a chi ti disonora? Continua ad ascoltarmi su CRCFM, perché le riflessioni bibliche di Tertulliano sono molto opportune e attuali. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Cristo abiti del continuo nella vostra vita. Oggi continueremo le nostre riflessioni in merito ad un libro scritto da Tertulliano dal nome Apologeticum. Perché la scelta di meditare su questo libro? Perché Tertulliano lo ha scritto per difendere la fede cristiana, e poiché ancora oggi in tutte le parti del mondo i cristiani vengono perseguitati, voglio elevare assieme a lui una difesa contro le assurde ingiustizie nei confronti dei cristiani. Abbiamo letto che Tertulliano inizia la sua arringa di difesa chiedendo innanzitutto ai persecutori della fede cristiana di conoscere cosa credono e quale sia il comportamento dei cristiani prima che vengano giudicati ingiustamente. In seguito passa all'attacco dicendo che la prima accusa che i cristiani formulano nei confronti dei loro persecutori è l'iniquità dell'odio per il solo nome di cristiano. Questo è dunque ciò che abbiamo preso in esame, ed ora consideriamo il seguito del discorso di Tertulliano. Quella stessa ragione che sembra scusare la vostra iniquità, in realtà la aggrava e la reputa. Voglio dire l'ignoranza. Che cosa infatti ci è di più iniquo per gli uomini dell'odiare? Una cosa che ignorano anche se è meritevole di odio. Essa non merita il vostro odio. Se voi non sapete che lo meriti, quando gli uomini odiano perché ignorano quale sia l'oggetto del loro odio, non può allora darsi che quello sia tale da non meritare d'essere odiato? Così dunque noi contestiamo ambedue le cose, e l'una con l'altra la loro ignoranza di ciò che odiano, e l'ingiustizia di un odio per ciò che essi ignorano. Dunque, Tertulliano insiste che chi condanna i cristiani debba prima conoscere a fondo la loro fede e il loro comportamento, altrimenti l'odio motivato dall'ignoranza lo renderebbe ancora di più colpevole. Non è forse questa la realtà di oggi? Anche nell'era moderna, che si definisce tollerante, la Bibbia rimane il bersaglio dell'odio e del sopruso. In alcuni paesi è un'offesa criminale venderla o distribuirla. Se uno avesse l'ardire di scendere dall'aereo con una Bibbia sotto braccio in uno di questi paesi, finirebbe in prigione prima ancora di arrivare alla dogana. Perché? Cosa ha di così pericoloso e di avverso la Bibbia? Invita a compiere cose aberranti? No! Eppure per un immotivato odio verso il cristianesimo non solo la Bibbia, ma tutti i cristiani sono sotto accusa. Come Tertulliano, i cristiani contestano l'ignoranza coniugata con l'odio. Il Dio dei cristiani è veramente grande perché viene glorificato dai suoi stessi accusatori. La Scrittura afferma in merito a Dio che anche l'ira degli uomini ritornerà a tua lode e ti cingerai con gli avanzi stessi della loro ira. Salmo 76.10. Infatti, la testimonianza resa da Tertulliano dopo circa 200 anni dalla nascita di Cristo è stata valevole fino al giorno d'oggi. Ecco l'arringa di testimonianza espressa da Tertulliano. La prova della loro ignoranza che condanna l'iniquità mentre le serve da scusa è data dal fatto che tutti coloro i quali fino ad oggi odiavano perché ignoravano, appena cessano di ignorare cessano anche di odiare. E questi diventano cristiani e senz'altro con conoscenza di causa cominciano ad odiare ciò essi erano, a far professione di ciò che odiavano. E sono così numerosi come voi potete constatare. Si vocifera che la città è invasa. Nelle campagne e nelle isole vi sono cristiani. Ogni sesso, ogni età, ogni classe, ogni grado passa questo nome e ci si affligge come di un danno. Nel leggere queste parole il mio cuore si allarga di riconoscenza. Fin dal suo nascere, il cristianesimo veniva accettato da una moltitudine di persone al punto che gli increduli erano preoccupati del loro numero. Non solo. Quelli che prima perseguitavano i cristiani, una volta diventati tali, diventano oggetto dell'odio che loro stessi nutrivano. Ne è un esempio lampante l'apostolo Paolo, sempre teso nelle sue lettere ad onorare Cristo il suo Salvatore. Ora, quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. Poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea, che sono in Cristo, ma esse udivano soltanto dire: colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che egli devastava, e glorificavano Dio per causa mia. Le parole di Paolo hanno un grande incoraggiamento e stimolano ogni credente a continuare a testimoniare di Cristo Gesù, perché anche se al presente non vi sono frutti, la grazia di Dio è in grado di scuotere le coscienze e portare a ravvedimento anche i più incalliti oppositori della fede cristiana. In effetti, persone che hanno vissuto nelle prigioni dove i cristiani venivano sistematicamente perseguitati hanno testimoniato e testimoniano tuttora che spesso i persecutori sono diventati i loro stessi perseguitati. Anch'io ho avuto la gioia di vedere persone che deridevano la mia fede cristiana e in seguito li ho visti lottare con perseveranza per la fede che prima ostacolavano. Le parole di Tertulliano, scritte circa 1800 anni fa, sono riscontrabili al giorno d'oggi e questo testimonia della veracità del cristianesimo. Il cristianesimo è oggetto di attacchi da ogni parte. Anche al tempo dei primi cristiani c'era l'abitudine di mettere in discussione la realtà delle cose, e prenderle in esame non fa che fortificare la fede. Ascoltiamo Tertulliano. Ma, si dice, non si può affermare che un'idea sia buona solo perché essa attira a sé molta gente. Quanti, infatti, sono coloro che sono attratti dal male? Tuttavia, ciò che è veramente un male non è difeso come cosa buona da coloro stessi che vi si lasciano trascinare. La natura ricopre di timore o di vergogna tutto ciò che è male. Tuttavia, ciò che è veramente un male non è difeso come cosa buona da coloro stessi che vi si lasciano trascinare. Infatti i malfattori cercano di nascondersi, evitano di mostrarsi, trepidano se sorpresi, negano se accusati, anche se posti alla tortura, né facilmente né sempre confessano. Condannati senza speranza, si abbattono, descrivono gli assalti di uno spirito malvagio contro di loro, imputano la propria debolezza al destino o all'influenza degli altri. Insomma, non vogliono riconoscere come cosa propria ciò essi considerano un male, un cristiano. Cosa fa mai di simile? Non ha vergogna di nessuno, di nulla si pente, se non, naturalmente, di non essere sempre stato tale. Se lo si denuncia, se ne gloria. Se è accusato, non si difende. Interrogato, spontaneamente confessa. Condannato, ringrazia. Che è dunque questo male che non ha le caratteristiche del male, cioè il timore, la vergogna, l'incertezza, il pentimento, il lamento? Che è mai questo male, di cui il reo si rallegra, la cui accusa è l'oggetto dei propri voti e la condanna a una vittoria? Non puoi giudicare follia ciò che tu sei convinto di ignorare. Quando qualcuno vuole trovare una cosa negativa, la trova in tutti i modi. Se i cristiani sono pochi, si dice che la causa risiede nel fatto che sono una setta. Se sono molti, questo non avvalora la bontà della loro professione di fede. Così come non è cambiato il cristianesimo, non è neppure cambiata la gente dal cuore maligno. Spesso succede che nel testimoniare la mia fede a qualcuno mi si chieda con disprezzo in quanti siamo e la mia risposta in armonia con la scrittura che invita a rispondere allo stolto secondo la sua follia meno è la seguente: siamo anche in troppi. Al di là delle battute e delle risposte è necessario ricordarci che quando si parla di numeri in merito ai cristiani, Gesù aveva profetizzato che sarebbero stati pochi coloro che avrebbero posto fede in lui, e se questo è vero, allora ci è da domandarsi in che cosa hanno creduto tutte le folle se seguono entusiaste un certo cristianesimo. Se in merito al suo ritorno Gesù si chiedeva se avrebbe trovato la fede sulla terra, è da chiedersi che tipo di fede hanno coloro che si professano cristiani. L'interrogativo è molto serio. I cristiani, al tempo di Tertulliano, erano scherniti perché erano numerosi, ed essendo numerosi, gli increduli attribuivano questa affluenza al fatto che seguivano delle cose sbagliate. E Tertulliano, abile nel rispondere, fa presente alcune cose. Innanzitutto, chi compie il male non difende ciò che fa, ma per istinto tende a nascondere il suo comportamento. Perciò i cristiani non nascondono nulla, perché sanno di non comportarsi male. Se poi i cristiani sapessero di compiere delle cose sbagliate, con tanta persecuzione sarebbero indotti a cambiare cammino, ma la loro fermezza e il loro amore dimostrano che la loro coscienza è in regola davanti a Dio e davanti agli uomini. La mia esperienza, comune a molti, è che appena ebbi afferrato la fede del cristianesimo, venni disprezzato e schernito, sia in casa che tra i miei amici, i quali dissero: «Ha preso un colpo di testa!» E, il solito estremista, «Gli passerà!» Sono passati più di 40 anni, ma ancora oggi testimonio della mia fede in Cristo, con un vigore sempre più convinto e rinnovato, e nonostante il mio cammino e il mio parlare siano più corretti di tanti religiosi, coloro che erano increduli lo sono ancora. Come al tempo di Tertulliano, gli uomini preferiscono non impegnarsi con una religione, e se scelgono una religione ne scelgono una non impegnativa, e se ne scelgono una impegnativa, la loro volontà non è sottomessa alla persona di Cristo, ma lo è ad un capo religioso o alla stessa religione. Tertulliano fa notare che, mentre i malvagi cercano di negare le loro malefatte, i cristiani sono orgogliosi di confessare pubblicamente il loro comportamento e la loro fede. Se il cristiano non ha vergogna di nessuno, se non ha da pentirsi di malefatte, se viene denunciato se ne vanta, se viene accusato non si difende. Che colpa gli si può attribuire perché ancora oggi come cristiano vengo messo da parte se predico l'Evangelo? Perché quando annuncio Cristo Gesù quale unico Salvatore e Signore e il solo degno di essere servito e adorato, vengo additato e perseguitato? Certo, oggi in Italia la persecuzione non si manifesta in modi estremi, ma vi sono tante forme di persecuzioni. Perché i cristiani in tutto il mondo sono così duramente ostacolati? Solo perché non predicano una religione? Solo perché non accettano ogni forma di compromesso? Voglio ricordare che in Nigeria, nel 2005, un cristiano è stato immobilizzato con un pneumatico inzuppato di benzina e in seguito gli hanno dato fuoco. Perciò, dopo circa 2000 anni, i giusti cristiani non vogliono vacillare davanti all'empio, perché sarebbero come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. Che Dio dia ai suoi figli sempre la franchezza che deve accompagnare chi testimonia di Cristo. E qui per oggi terminano le mie riflessioni, cari ascoltatori, e a risentirci per seguire le interessanti riflessioni di Tertulliano supportate dalla parola di Dio. 3. In difesa della fede cristiana e illegalità procedurali. Spot, sei curioso di sapere come vivevano i primi cristiani? Vuoi conoscere come venivano trattati e quali ingiustizie subivano? Ascoltami assieme ai tuoi amici su CRCFM perché parleremo proprio di questo. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti al nostro appuntamento. Sono felice di dedicare ancora questa trasmissione allo scritto che Tertulliano ha dedicato per difendere la fede cristiana, e questo per due motivi. Perché i cristiani ancora oggi non godono della libertà religiosa che godono altre religioni, e perché il giusto che vacilla davanti all'empio è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. I cristiani possono anche soffrire perché a questo sono stati chiamati, ma non sono degli sprovveduti sempliciotti che subiscono ogni ingiustizia senza far riflettere chi compie il male. Tertulliano nel suo libro Apologeticum invita i persecutori a informarsi della fede dei cristiani prima di incriminarli, torturarli e assassinarli. Non solo. Tertulliano termina questo primo aspetto in difesa della fede cristiana, rivolgendo un'accusa ai suoi accusatori. L'iniquità del loro odio per il solo nome di cristiano non ha ragione di esistere. In seguito Tertulliano passa a considerare che la procedura per condannare i cristiani è illegale e ingiusta. Questo metodo purtroppo è in vigore ancora oggi in molte parti del mondo nelle quali i cristiani vengono incarcerati, privati dei figli, le loro donne violentate. Gli uomini subiscono forti mutilazioni e questo solo per il fatto che portano il nome di cristiani. È una spregevole procedura che dovrebbe essere eliminata, ma purtroppo le persecuzioni nei confronti dei cristiani ci sono sempre state e sempre ci saranno perché la verità avrà sempre per nemico la menzogna e l'ingiustizia. Per incoraggiare chiunque soffre causa la sua fede in Cristo, ricordiamo le parole dell'Apostolo Pietro, che di sofferenza ne sapeva qualcosa. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore, o perché si impiccia negli affari degli altri. Ma se uno soffre come cristiano, non si vergogni, anzi glorifichi Dio a questo riguardo. 1 Pietro 4.16. Proprio perché chi è un vero cristiano è chiamato a glorificare Dio, continuiamo a prendere in esame l'arringa in difesa dei cristiani di Tertulliano. Un'arringa che può anche non arrivare al cuore di chi è cieco di odio, ma rimane un elemento di giudizio nel giorno nel quale la persona andrà davanti a Cristo per essere giudicata. E questo è molto significativo. Mentre oggi i cristiani vengono giudicati ingiustamente con odio perché hanno posto fede in Cristo, verrà il giorno nel quale Cristo giudicherà chi ha giudicato ingiustamente i cristiani. e lo farà in modo giusto e con amore. Quel giorno ogni uomo avrà la bocca chiusa. Salmo 107.42, Matteo 22.12. Dopo aver condannato chi condanna i cristiani senza informarsi della loro fede, Tertulliano passa a dimostrare le illegalità procedurali dei nemici della fede cristiana. Se dopo tutto è certo che noi siamo dei grandi delinquenti, perché mai veniamo trattati da voi stessi diversamente dei nostri simili, cioè degli altri delinquenti, mentre per una stessa colpa dovrebbe esservi trattamento uguale? Quando gli altri sono accusati di tutte le cose che a noi vengono imputate, essi possono con la propria voce o per mezzo di una voce pagata provare la propria innocenza, essi hanno facoltà di risposta, di contraddittorio. Perché non è affatto lecito condannare qualcuno senza che sia stato difeso ed ascoltato. Ai cristiani invece non è permesso di dire ciò che li discolperebbe dall'accusa, farebbe rifuggere la verità dei fatti, impedirebbe al giudice di commettere un'ingiustizia. Si desidera solo ciò che serve ad aizzare l'odio pubblico, la confessione di un nome, non l'indagine su di una colpa. Ciò mentre se voi conducete un'inchiesta su un criminale qualunque, non vi accontentate che egli si confessi omicida o sacrilego o colpevole di incesto o nemico o pubblico. E accenno soprattutto alle accuse che rivolgete a noi per condannarlo. Senz'altro, ma verificate le circostanze, la specie del delitto, il numero, il luogo, il modo, il tempo, i testimoni, i complici. Con noi nulla di tutto ciò. Mentre sarebbe vostro dovere farci confessare con la tortura i crimini che falsamente ci imputate, quanti infanticidi, quanti incesti commessi col favore delle tenebre, quanti cuochi, quanti cani vi abbiano assistito. O quale vanto per un governatore di provincia se riuscisse a scoprire qualcuno che avesse divorato un centinaio di bambini. Come abbiamo detto, questa descrizione delle modalità con le quali erano giudicati i cristiani non ha nulla di nuovo, perché ancora oggi, meno non dopo 2000 anni, ma nel corso dei 2000 anni, meno si chiede ai cristiani di negare la loro fede, e questo solo per il piacere di vederli negare la verità. E non solo. Chi odia Cristo e la verità desidera solo sentire la menzogna, al punto che è disposto ad assolvere chi mente anziché incolpare il colpevole. Non occorre andare molto lontano per verificare questo, perché se io negassi di essere un cristiano, farei felice molte persone, tra le quali i parenti e i religiosi del mio paese. Se fossi un falso e vuoto religioso come quasi la totalità dei miei compaesani, non darei fastidio, ma poiché osservo i comandamenti di Cristo, sono una spina nel fianco, sia degli atei, sia dei religiosi. Tertulliano continua le sue disamine in favore dei cristiani dicendo: ma ben più. Abbiamo trovato la prova che è stato perfino proibito di ricercarci. Infatti Plinio II, mentre governava una provincia, avendo condannato alcuni cristiani ed ottenuta l'apostasia di altri, turbato tuttavia dallo stesso loro gran numero, consultò l'imperatore Traiano su ciò che egli dovesse fare in avvenire, dicendogli che, salvo l'ostinazione a non sacrificare agli dèi, egli non aveva potuto scoprire circa i loro misteri, che delle riunioni tenute avanti l'alba, in cui si innalzavano canti a Cristo come a un Dio, e ci si impegnava a una disciplina che vieta l'omicidio, l'adulterio, la frode, la perfidia e tutti gli altri delitti. Allora Traiano decretò che quella gente non doveva essere ricercata, ma che se erano denunciati al tribunale, si doveva punirli. O sentenza per necessità illogica. Essa dice che non si deve cercarli come degli innocenti ed ordina di punirli come dei colpevoli. Risparmia e incrudelisce, chiude gli occhi e punisce. Questa testimonianza di Tertulliano non può passare inosservata. Dunque i primi cristiani tenevano delle riunioni all'alba per avere un culto con canti a Cristo, adorandolo come Dio. Dove sono i detrattori della fede cristiana accusandoci oggi di adorare Cristo come Dio, quasi che fosse una novità e un sacrilegio del cristianesimo? Così i primi cristiani non venivano sempre indagati come gli ebrei al tempo del fascismo, ma erano comunque sempre puniti qualora fossero apparsi davanti al tribunale come cristiani. Forse è cambiato qualcosa oggi in certi paesi totalitari, e dove non solo la religione cattolica ha una supremazia religiosa. Tertulliano continua la sua arringa. Voi non vi comportate con noi secondo la legge, perché gli altri, se negano, voi applicate la tortura per strappare una confessione, ai soli cristiani la applicate perché neghino. Ma se si tratta di un delitto, noi negheremmo e voi ricorrereste alla tortura per farci confessare. E poiché voi presumete il nostro delitto dalla semplice confessione del nome di cristiano, è cosa ancor più contraria alle leggi il farci ritrattare tale confessione. Per mezzo della tortura, perché negheremmo al tempo stesso anche i delitti che ci erano stati presunti per aver confessato quel nome. Non vi è nessuna ragione logica nell'insistere fino alla tortura per costringere un figlio di Dio a negare di essere un cristiano, ma proprio perché è illogico occorre ritenere questo odio verso i cristiani qualcosa che non appartiene solo all'umano. Infatti, nell'odio ci è di mezzo il diavolo. Così, senza saperlo, coloro che odiano i cristiani sono schiavi dell'avversario di Cristo, e se negano di essere degli strumenti del maligno, allora lo dimostrino con l'essere a favore del cristianesimo. La parola di Dio afferma che le autorità sono state istituite da Dio perché vi sia ordine per punire i malfattori, eppure ancora oggi, e in questo momento in varie parti del mondo, benché non abbiano comportamenti punibili dalla legge, i cristiani subiscono dei processi ingiusti solo per il fatto di professare il nome di Cristo. Forse pochi di noi hanno assistito ad un processo ingiusto nei confronti dei cristiani, e per questo la descrizione di ciò che avveniva nei processi al tempo di Tertulliano può essere molto utile. Ascoltiamo Tertulliano. Un uomo proclama: «Sono cristiano», dice ciò che è. «Tu invece vuoi udire ciò che non è. Voi che siete giudici e dovete strappare la verità, da noi soli vi sforzate di udire la menzogna. Sono quello», dice, «che tu mi domandi io sia. Perché mi torturi?» «Ingiustamente, confesso. E tu mi torturi, che faresti se negassi?» È chiaro. Agli altri, se negano, non credete facilmente. A noi, se neghiamo, credete subito. Questa anomalia dovrebbe farvi sospettare che vi sia qualche forza occulta che si serve di noi contro la procedura, contro la natura del giudizio, contro le stesse leggi. Se non sbaglio, infatti, le leggi ordinano di scoprire i delinquenti, non di nasconderli. Ordinano di condannare i rei quando confessano, non di assolverli. Dopo 1800 anni, le cose non sono cambiate. Mi trovavo in un'assemblea dove alcuni esponenti religiosi cercavano di risolvere alcune problematiche politiche con la loro sapienza e il sincretismo. Ma quando elevai la mia voce come cristiano denunciando ciò che era falso e mettendo in luce la fede cristiana, subito nacque un silenzio imbarazzante, e l'assemblea si concluse. Il solo nome cristiano, pronunciato con consapevolezza e maturità, ovunque lo si dica, provoca smarrimento. Coloro che oggi giudicano i cristiani ingiustamente meno, e così deve essere perché altrimenti non sono cristiani, vogliono sentire altre parole, preferiscono udire che una persona appartiene a una confessione di fede, che milita in una organizzazione politica o religiosa. Ma il solo fatto che uno ponga unicamente fede in Cristo diventa ragione di odio e di violenza. Ma il cristiano trova in questa opposizione una ragione in più per verificare che la sua fede è posta nella persona giusta. E questo per due motivi. Primo, perché Gesù aveva avvertito che chi avrebbe posto fede in lui sarebbe stato perseguitato. E poi perché il cristiano sa di essere perseguitato nonostante non abbia commesso nessuna ingiustizia. Voglio ricordare che in Nigeria estremisti di una religione hanno attaccato e incendiato 15 chiese cristiane, e almeno 16 cristiani sono stati uccisi a bastonate solo per il fatto che professavano Cristo. Ma comunque vadano le cose, sia nel bene sia nel male, il cristiano è vittorioso. Continueremo le nostre riflessioni, cari ascoltatori, al prossimo incontro, perché ci sono ancora tante cose da dire in difesa della fede cristiana. 4. In difesa della fede cristiana, illegalità procedurali. Spot, se sei un cristiano a volte avrai subito delle ingiustizie per la tua fede, ci è da scoraggiarsi. Vero? Perciò ti invito ad ascoltarmi assieme ad altri credenti su CRCFM, per sapere come venivano trattati i cristiani 1800 anni fa. Certamente non meglio di te. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, grazie per la vostra gentile attenzione. E, con gioia che anche oggi, parlo in difesa della fede cristiana e di coloro che vengono perseguitati, torturati e assassinati per il nome di Cristo. Ne parlo perché anch'io sono cristiano e perché l'autore della lettera agli Ebrei, una lettera che troviamo nel Nuovo Testamento, ci ordina di ricordarci dei carcerati come se noi fossimo loro compagni e di quelli che sono maltrattati, sapendo che anche noi siamo nel corpo. E cioè dobbiamo ricordarci che se per il momento noi cristiani possiamo esprimere la nostra fede, senza essere perseguitati, non è detto che al più presto ciò non avvenga. È vero che i veri cristiani sono stati perseguitati in tutti i tempi, ma le loro afflizioni erano supportate da una ferma fiducia di ricevere un premio e un giusto giudizio da Dio. L'Apostolo Paolo, assieme ai suoi collaboratori, scrisse così a dei credenti che soffrivano per la loro fede. Paolo, Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre nel Signore Gesù Cristo, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi siamo obbligati a rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto, perché la vostra fede cresce grandemente e che il amore di voi tutti individualmente abbonda l'un per l'altro, tanto che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio. Per la vostra perseveranza e fede in tutte le vostre persecuzioni ed afflizioni che sostenete. Questa è una dimostrazione del giusto giudizio di Dio, affinché siate ritenuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è cosa giusta da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono, e a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono al Evangelo del Signor nostro Gesù Cristo. Questi saranno puniti con la distruzione eterna, lontani dalla faccia del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando egli verrà, in quel giorno, per essere glorificato nei suoi santi, per essere ammirato in mezzo a quelli che hanno creduto, poiché la nostra testimonianza presso di voi è stata creduta. 2 Tessalonicesi 2.1.10. Dunque soffrire causa la fede in Cristo è dimostrazione di una fede operante che salva e che è genuina, mentre a chi reca afflizioni ai cristiani nella sua giustizia, Dio rende le afflizioni che procurano. Forse non diamo peso a queste parole, ma dato che la sofferenza è inevitabile, è meglio soffrire perché si è giusti che soffrire per una retribuzione divina. Inoltre, chi reca afflizioni ai cristiani dopo la morte incorrerà nel terribile giudizio di vendetta da parte di Cristo. Proprio perché i cristiani sono perseguitati in varie parti del mondo, ho dedicato 15 trasmissioni ad una ringa di Tertulliano in favore ai cristiani, che durante l'epoca nella quale egli visse, venivano ingiustamente perseguitati e assassinati. In questa ringa Tertulliano accusa i magistrati dell'impero romano di giudicare delle persone senza conoscerle e di avere dei procedimenti legali illeciti. Infatti, mentre i criminali venivano torturati perché confessassero le loro malefatte, coloro che avevano posto fede in Cristo quale vero ed unico Dio, venivano torturati perché negassero di essere cristiani. Con acume, Tertulliano fa notare che mentre dai delinquenti i persecutori vogliono udire la verità, dai cristiani vogliono sentire la menzogna, così mentre mentendo, i delinquenti non vengono creduti, i cristiani negando con una confessione strappata con forza di non essere più tali, vengono creduti. Per questo Tertulliano continua col dire: se non sbaglio, infatti, le leggi ordinano di scoprire i delinquenti, non di nasconderli. Ordinano di condannare i rei quando confessano, non di assolverli. Infine, nessuno desidera assolvere colui che ha confessato. Non è lecito voler ciò. Per questa ragione, nessuno può essere costretto a negare. Un cristiano voi lo ritenete colpevole di ogni delitto, nemico degli dèi, degli imperatori, delle leggi, dei costumi, dell'intera natura. E lo obbligate a negare per assolverlo, perché non potreste assolverlo se non negasse. Avete prevaricato contro la legge. Voi volete che gli neghi di essere colpevole per dichiararlo innocente ed anche, suo malgrado, non più reo delle colpe passate. Riflettete su questa assurdità. Voi date maggior credito a chi spontaneamente confessa che non a chi nega costretto dalla forza, e non badate se, costretto a negare, non abbia negato sinceramente. E assolto, nello stesso istante in cui lascia il vostro tribunale, non rida, cristiano come prima, del vostro odio. Poiché dunque in ogni cosa ci trattate diversamente da ogni altro colpevole, cercando di ottenere una sola cosa, di farci separare da questo nome, ce ne separeremmo infatti se facessimo ciò che fanno i non cristiani, voi potete comprendere come non sia in causa un delitto, ma un nome. Ancora una volta Tertulliano mette in evidenza come si usi la giustizia per realizzare il proprio odio verso Cristo. Leggevo che in una certa località, mentre un gruppo di credenti pregavano meno e da notare che si limitavano a pregare meno un gruppo di fanatici, hanno invaso la casa e alcuni credenti subito hanno chiamato la polizia per essere protetti. Condotti davanti alle autorità, anziché essere protetti, sono stati arrestati e fatti oggetto di violenze. Quando il Dio dei cristiani farà vendetta, che sorte avranno queste persone? Quando si pensa alla feroce persecuzione dei cristiani nei primi secoli dell'era cristiana, non cic, è una ragione logica se non, come sostiene Tertulliano, un odio ingiustificato nei confronti di coloro che si chiamavano cristiani. Ma questo odio era proprio del tutto ingiustificato? Forse no. In effetti, la grande tolleranza in materia religiosa dei romani, i quali assimilavano tutti i culti stranieri importati nell'urbe e permisero l'affermarsi di culti locali nelle province, non riesce a conciliarsi con la persecuzione dei cristiani, se non si sapesse che, questa volta, i seguaci di questa nuova setta, così come veniva chiamato il cristianesimo, non erano disposti a lasciarsi assimilare. Anzi, esercitavano una vivacissima azione di proselitismo, che trascinava a sé le masse dei diseredati e permeava anche fra le classi più elevate della società romana. In effetti, ad Antiochia c'era un certo Manaen, che era stato allevato assieme a Erode il tetrarca. Atti 13.1. Questo, l'impero di Roma non lo poteva tollerare, soprattutto perché il dio dei cristiani non era più Cesare o l'imperatore, e questo era più pericoloso di tutti gli altri moti sociali, politici, religiosi, fino allora verificatisi. Proprio per questo odio verso i cristiani, i magistrati avevano atteggiamenti ingiusti e usavano parzialità nei tribunali. E Tertulliano ancora una volta accusa chi siede nei tribunali di odiare semplicemente un nome. Ed esso è perseguito per una certa forza odiatrice, che ha per primo motivo quello di spingere gli uomini a non voler conoscere a fondo ciò che essi sono certi di non conoscere a fondo. Perciò, se credono di noi cose che non possono essere provate e non vogliono indagare, è per il timore di dover provare che le cose non stanno come essi vorrebbero credere. E per poter condannare un nome odioso a quell'attività odiatrice, non in virtù di delitti provati ma soltanto presunti, e sulla base della sola confessione di quel nome. Noi siamo torturati quando confessiamo, siamo puniti se persistiamo ed assolti se ne diamo, perché la battaglia è solo intorno a un nome. E stato detto che un giudizio è sbagliato quando chi giudica è affetto da un'infermità mentale o quando ha una memoria imperfetta, ma soprattutto il giudizio è errato quando non si conoscono i fatti e si nutre dell'odio. Quando i cristiani vengono chiamati in giudizio perché hanno abbandonato la fede dei loro padri, come gli ebrei, musulmani o cattolici, non vengono giudicati sulla base di atti immorali, ma il solo fatto di aver abbandonato la religione nella quale sono vissuti. Che valore ha una religione per nutrire tanto odio verso chi l'abbandona? Il sospetto cade sul fatto che non è tanto la gravità di aver abbandonato la religione, ma che chi abbandona la religione mette in evidenza che chi la professa ancora è nell'errore. Solo questo senso di colpa giustifica l'odio verso i cristiani. Anche se i cristiani sono perseguitati, non per questo si sentono smarriti e non vogliono neppure essere titubanti nell'esprimere la loro fede, perché sono coscienti che il giusto che vacilla davanti all'empio è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. Tra i tanti, ne è stato un esempio Lutero. Era solo di fronte all'imperatore e ad un'assemblea di principi, di ambasciatori, di magistrati e di cardinali, solo di fronte a tutte le autorità civili e religiose riunite. Quando gli venne intimato di ritrarsi dalle sue convinzioni, dopo aver riflettuto un giorno, rispose: «Se non mi si dimostra, con la scrittura, che ho torto, non posso né voglio ritarmi. La mia coscienza è prigioniera della parola di Dio, e non è bene agire contro la propria coscienza. Non posso altrimenti, Dio m'aiuti. Colui che ha posto una fede salvifica in Cristo ha il piede della sua fede poggiato sulla roccia, e questa roccia è Cristo Gesù, un nome, questo, da sempre disprezzato, anche nei luoghi religiosi con caratteristiche cristiane. Come al tempo di Tertulliano, anche oggi molti si avvolgono del termine cristiano, ma è come mettere su una bottiglia di veleno la scritta Coca-Cola». E per l'odio che si provava nei confronti del termine cristiano, Tertulliano conclude nel dimostrare l'illegalità nelle procedure giudiziarie, con queste parole. Infine, quando, leggendo sulla tavoletta, accusate uno come cristiano, perché non dite anche omicida, se un cristiano è un omicida? E perché non che incestuoso o qualsiasi altra cosa che credete di noi? Solo nei nostri confronti avete vergogna, o non osate denunciarci con i nomi stessi dei delitti? Se cristiano non è il nome di un delitto, è davvero stolto considerare un delitto questo nome. La conclusione di Tertulliano è di una logica stringente. Se i cristiani sono accusati di ogni sorta di male, tra i quali mangiare i bambini, perché nell'accusarli colpevoli non dire anche che sono omicidi? Ma nonostante che fossero messi in prigione, torturati e assassinati, nessuno aveva qualcosa da dire contro la morale. Quando ero giovane, e il cattolicesimo romano era la morale del popolo, nonostante che i cristiani fossero onesti e lavoratori seri, spesso non venivano assunti solo perché erano dei cristiani. Sembra che oggi le cose siano cambiate, ma purtroppo ancora in troppi paesi i cristiani subiscono ingiustizie. Ricordiamo che in Indonesia, il 31 dicembre 2005, un'esplosione nell'area cristiana ha ucciso 8 persone, ferendone 56 mentre stavano semplicemente comperando carne di maiale, considerata questa una offesa alla religione islamica. Chi leverà una voce in favore dei cristiani? Chi sarà il Tertulliano del XXI secolo? Questa è una domanda che ci deve fare riflettere, cari ascoltatori, e ci sproni a vivere per Cristo. 5. In difesa della fede cristiana, odio per un nome. Spot, ti definisci un cristiano? Oggi forse qualcuno ti rispetta per il nome che porti, ma 170 dopo la morte di Gesù questo nome veniva odiato. Sembra impossibile, eppure i cristiani sono stati odiati nel corso dei secoli proprio da coloro che si definivano cristiani. Su CRCFM avrai maggiori ragguagli. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi porgo i miei più sentiti e sinceri saluti. Chi ci segue regolarmente sa che questa è la quinta trasmissione in favore della fede cristiana e dei martiri, che ogni giorno in varie parti della terra sacrificano la loro vita pur di non rinnegare la loro fede in Cristo. Fin dal suo nascere il cristianesimo ha avuto un impatto d'urto con l'impero romano per il suo rinnovamento morale, con le sue rinunce, la sua severità e anche il mistero che circondava una parte del suo culto, e cioè la cena del Signore, della quale erano sorte abominevoli dicerie, si sussurrava persino che nelle loro agapi, e cioè nelle loro riunioni, si immolavano dei neonati e se ne beveva il sangue. Inoltre erano anche accusati di ogni sorta di malefici. Se il Tevere era in piena, se la siccità divorava i campi, se la peste mieteva vittime, i colpevoli erano sempre i cristiani. Per questo, molte volte, le autorità romane perseguitavano i cristiani, semplicemente cedendo alle pressioni dell'opinione popolare, fanatica e superstiziosa. E, in questo contesto che eleva, come un forte grido, la voce Tertulliano, con uno scritto dal nome Apologeticum, uno scritto che rispecchia lo stile e il carattere di avvocato del proprio autore. Nel suo trattato, Tertulliano dimostra la logicità del cristianesimo e l'incoerenza dei suoi oppositori, al punto di annichilirli completamente. Li accusa perché giudicano quello che non sanno. Li condanna per le procedure illegali nel giudicare i cristiani, dimostra che Alla fine i cristiani sono solo odiati, perseguitati, torturati e assassinati solo per il fatto che portano il nome di cristiano. Purtroppo anche oggi in varie parti del mondo i cristiani sono perseguitati e assassinati, e questo, come al tempo di Tertulliano, in nome di una presunta giustizia. In un paese musulmano è stato arrestato un certo Hamid di 47 anni, e il giudice inaspettatamente ha detto: «Secondo la Sharia non ci sono accuse contro di lui. Non ha fatto niente di male, eppure è stato condannato a 3 anni di carcere per non aver dichiarato di essere un cristiano. Così come abbiamo considerato nelle precedenti trasmissioni, se i criminali vengono condannati perché non dichiarano il male, i cristiani sono anche punibili solo perché non dichiarano di essere cristiani. Se lo dichiarano sono condannati a morte, se non lo dichiarano sono colpevoli. Questo non colma forse la coppa di ingiustizia di chi odia Cristo?» Nella sua apologetica, Tertulliano porta degli esempi di ingiustizia rivolta a dei cristiani che sembra descriva la cronaca degli avvenimenti di oggi. Ascoltiamolo. E che dire dei molti che si danno occhi chiusi ad un tal odio verso quel nome, che anche quando recano a qualche cristiano una favorevole testimonianza, vi mescolano l'obbrobrio per quel nome. Brava persona, Caio Seio, peccato che sia cristiano. Ed un altro: mi meraviglio che Lucio Tito, uomo così saggio, sia d'un tratto divenuto cristiano. Nessuno si pone il problema se Caio sia una brava persona e Lucio assennata perché cristiano, oppure sia cristiano perché brava persona e assennata. Lodano ciò che conoscono, biasimano ciò che ignorano, e ciò che sanno disapprovano a causa di ciò che ignorano. Come se fosse più giusto formulare un giudizio preventivo sulle cose occulte fondandosi su quelle manifeste, che non condannare anticipatamente le manifeste sulla base delle occulte. Chi è un cristiano ha visto realizzarsi queste verità nella sua vita? Quando ho posto fede in Cristo, tutto il mio paese mormorava della mia scelta e dicevano proprio queste parole: come mai Ellero testimonia di credere in Cristo? Eppure è sempre stato un ragazzo per bene. Questo modo di giudicare chi pone una fede salvifica in Cristo scoraggia notevolmente chi vorrebbe porre fede in Cristo, quale Salvatore e Signore. Come i primi cristiani, nell'aderire alla nuova fede sapevano che quell'atto li esponevano alla possibilità di sacrificare la loro vita, così anche oggi molti si rendono conto del costo di diventare dei cristiani. Mi trovavo in una località di Pavia e testimoniavo all'albergatore di un hotel nel quale alloggiavo, e dopo mezz'ora lo invitavo a prendere una decisione per Cristo. L'albergatore era stato istruito nella dottrina del cattolicesimo, aveva letto varie volte la Bibbia, e perciò era cosciente di cosa lo stessi invitando a fare. Dopo un breve riflessione mi rispose che non poteva dare la precedenza a Cristo perché avrebbe avuto molte difficoltà nell'ambito del lavoro. Quando le persone avrebbero saputo che egli era diventato un cristiano, molto probabilmente avrebbero alloggiato altrove. E questo, occorre dirlo e ribadirlo, in una società che si definisce cristiana, il rifiuto dell'albergatore di scegliere Cristo come la massima autorità della sua vita non dimostra che viviamo in un paese non cristiano ma pagano. Il rifiuto dell'albergatore non mi dimostra che i cristiani sono perseguitati anche oggi. La scelta dell'albergatore non mi dice che essere cristiani oggi è difficile quanto lo era al tempo di Tertulliano. La mia esperienza con l'albergatore non mi dice quanto sia necessario parlare in favore dei cristiani perseguitati e che queste trasmissioni sono indispensabili. Che i cristiani avessero avuto una vita molto difficile, lo aveva detto anche Gesù quando disse: «Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada. Perché io sono venuto a mettere disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua». Matteo 10.3-4-6. In effetti, questo è quello che avvenne subito dopo la morte di Cristo, ed è quello che testimoniò Tertulliano. Altri condannano, dal momento stesso che li lodano, coloro che, prima che portassero tale nome, avevano conosciuti quali libertini, spregevoli, disonesti, giudicano con la cecità dell'odio. Questa donna quanto era gaia, quanto graziosa, questo giovane quale giocatore, quale amante, essi sono fatti cristiani. Quel nome è dunque considerato la causa del loro mutamento. Non pochi poi vengono a patti, per questo odio, anche con i propri interessi, rassegnandosi a subire un danno, pur di non ricevere presso di sé coloro che odiano. Il marito, non più geloso, ripudia la moglie divenuta pudica. Il padre, che sopportava tutto, disereda il figlio fattosi docile. Il padrone, un tempo indulgente, punisce lo schiavo, divenuto fedele. Appena uno, assumendo quel nome, si redime, diventa odioso. Non si calcola il bene che ne è derivato, quanto l'odio per i cristiani. Dunque, i cristiani quando diventano tali, ne pagano un certo prezzo. Ho conosciuto una coppia ricca, che era l'invidia di tutto il paese. Quando il marito scelse Cristo quale suo unico salvatore, dato che erano molti religiosi e osservavano scrupolosamente le regole del cattolicesimo romano, la moglie aveva intenzione di divorziare, e questo sarebbe avvenuto se anche la moglie in seguito non avesse posto la giusta fede in Cristo. È da notare che essa credeva già in Cristo, ma era una fede inefficace che non salvava. Le testimonianze di Tertulliano del marito che abbandona la moglie perché diventa cristiana, o il padre che disereda il figlio perché ha posto una reale fede in Cristo, il datore di lavoro che si incattivisce verso il proprio operaio solo perché ha creduto che i suoi peccati sono salvati per sempre con un atto di fede in Cristo, sono realtà di ogni giorno. Il fatto che non siamo i protagonisti o spettatori diretti non significa che non esistano. Spesso solo i cristiani conoscono quando altri come loro soffrono. Chi non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Erano passati solo 170 anni dalla resurrezione di Cristo e già il nome di cristiano era stato malinteso e ingiustamente odiato. Così lo racconta Tertulliano. Dunque, se l'odio è per il nome, quale è mai la colpa di un nome? Quale accusa potete recare a dei nomi, se non che un tal vocabolo ha un suono forestiero e di cattivo augurio, ingiurioso o sconveniente? Ma il vocabolo cristiano, secondo l'etimologia stessa della parola, deriva da unzione. Anche quando voi lo pronunciate cristiano, perché voi non avete una cognizione esatta neppure del nome, risulta composto da dolcezza e bontà. Si odia dunque, in uomini innocenti, anche l'innocente nome, d'altra parte si odia la setta nel nome del suo creatore. Non è da meravigliarsi se i seguaci di una dottrina prendono nome da quello del suo autore. I filosofi non si chiamano forse platonici, epicurei, pitagorici, dal nome dei rispettivi maestri, perfino dai luoghi di riunione o dove si tenevano lezioni, presero nome gli stoici, gli accademici, parimenti i medici da Erasistrato, i grammatici da Aristarco e perfino i cuochi prendono nome da Apicio. Eppure, nessuno si sentì offeso di portare un nome che gli è stato trasmesso, con la dottrina dal proprio autore. D'accordo che se si prova che l'autore è cattivo e cattiva la setta, si proverà che anche il nome è cattivo, degno di odio, per colpa della setta e del suo autore. Quindi, prima di odiare il nome, bisognava imparare a conoscere la setta per mezzo dell'autore o questi per mezzo di quella. Nel nostro caso invece si è negletto di informarsi e di conoscere l'uno e l'altro. Si accusa il nome, si combatte il nome, ed una sola parola condanna in anticipo una setta ignota, un autore ancor più ignoto, perché portano quel nome, non perché siano convinti di una colpa. È importante ricordare che il cristiano è colui che segue le orme di Cristo e non chi appartiene ad una religione. I cattolici si ritengono cristiani solo perché sono cattolici, ma come può essere cristiano un cattolico quando dei papi, tanto per prendere in considerazione quelli che rappresenterebbero la cristianità nella loro purezza, erano dichiarati eretici da altri papi, come per esempio Adriano VI nel 1523, o avevano avuto figli, come per esempio Pio II. Come possono essere cristiani i protestanti quando negano l'ispirazione verbale della parola di Dio e non credono a ciò che in essa è scritto? È possibile dopo 2000 anni essere confusi su chi è cristiano? Sì. E per questo continuerò a dedicare delle trasmissioni in favore dei cristiani che soffrono per la loro fede, perché il giusto non vacilli davanti all'empio e non sia come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. Per un cristiano non testimoniare di Cristo è grave, ma altresì avere una fede che vacilli. Non mi resta che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima. 6. In difesa della fede cristiana e il Dio dei cristiani. Spot. Sono sempre stato curioso di conoscere una testimonianza in merito alla fede dei primi cristiani. Tertulliano, in uno scritto di 1800 anni fa, ne fa un accenno. Ti incoraggio ad ascoltarmi e casomai assieme ai tuoi amici perché vi farà del bene. Sempre naturalmente su CRCFM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza abiti del continuo nei vostri cuori. Siamo arrivati alla 6ª trasmissione dedicata ai cristiani che soffrono per la loro fede. Ancora oggi in varie parti del mondo ci sono delle vere campagne di odio nei confronti di coloro che hanno posto una fede salvifica in Cristo, al punto che alcuni cristiani morti vengono dissotterrati per essere battezzati secondo la fede ufficiale del paese. Se questo è il trattamento riservato ai morti, qual è quello riservato ai vivi? Nel gennaio del 1999 un missionario è stato bruciato vivo assieme ai suoi due figli solo perché predicava Gesù Cristo. Questi sono fatti incresciosi che non possono essere taciuti. Come del resto ciò che avveniva all'inizio della nostra era volgare quando i cristiani venivano perseguitati, torturati, assassinati e dati in pasto ai leoni. La storia è testimone di queste ingiustizie e un cristiano di nome Tertulliano ha scritto una ringa dal titolo Apologeticum, nella quale condanna l'odio ignorante e ingiusto degli oppositori del cristianesimo. Abbiamo considerato nelle trasmissioni precedenti come egli condanni i magistrati di avere delle procedure illegali nel giudicare i cristiani, dimostra che i cristiani sono odiati, perseguitati, torturati e assassinati solo per il fatto che portano il nome di cristiano. Proprio perché i cristiani venivano perseguitati e maltrattati ingiustamente, come del resto succede oggi, meno, è molto utile prendere in considerazione quale risposta dava Tertulliano a coloro che odiavano i cristiani. Dopo aver confutato brillantemente tutte le calunnie che erano rivolte ai cristiani, tra le quali che il Dio dei cristiani avesse una testa d'asino, che adorassero una croce o il sole meno, dopo aver dimostrato che la fede dei cristiani ha le sue radici nelle fede ebraica, e cioè una religione nella quale non si adora nessuna immagine, con un certo orgoglio, Se era interessante la prima parte del discorso di Tertulliano dove confutava l'altrui ignoranza, quanto più è interessante e utile considerare in che cosa credevano i primi cristiani, e questo per verificare se dopo 2000 anni il credo di coloro che sostengono di professare la fede cristiana sia lo stesso dei primi seguaci di Cristo. Infatti, come abbiamo preso in esame, non è sufficiente portare il nome di cristiano o appartenere ad una religione con elementi cristiani come il protestantesimo o il cattolicesimo. Lo dimostra il fatto che i veri cristiani sono perseguitati da coloro che si ritengono cristiani solo di nome per la forma espressa nel loro culto. Tertulliano inizia la sua testimonianza della fede cristiana in questo modo. Quello che noi adoriamo è un Dio unico. Con la parola che comanda, la mente che dispone, la virtù che tutto può, dal nulla egli trasse per servir di ornamento alla propria maestà questa gigantesca mole con tutto il contorno degli elementi, dei corpi, degli spiriti. Egli è invisibile anche se lo si vede. Inafferrabile anche se presente attraverso la grazia. Inconcepibile anche se i sensi umani lo possono concepire. Perciò vero e grande. Le altre cose che si possono vedere, afferrare, concepire sono minori di quanto appaiono agli occhi che le invidiano, e dalle mani che le toccano, e dai sensi che le scoprono. Ma ciò che è infinito è conosciuto appieno solo da se stesso. Ciò che ci fa comprendere Dio è proprio il non poterlo comprendere. Così la potenza della sua grandezza lo rende nascosto agli uomini. Ed è questa la maggior colpa di coloro che non vogliono riconoscere, che non lo possono ignorare. La fede cristiana inizia col dire che vi è un Dio invisibile, inafferrabile, inconcepibile, ma nello stesso tempo Esso è visibile tramite le opere della creazione, inafferrabile anche se la sua grazia può essere compresa, e inconcepibile anche se si è reso comprensibile in Cristo Gesù vissuto 2000 anni fa. Il Dio dei cristiani non è come il Dio dei musulmani, Allah, che è impossibile conoscere. Non è un Dio che si mescola con tanti altri dei come nell'induismo, ma è vicino all'uomo, parla come un uomo, è stato uomo a tutti gli effetti, perché potesse comprendere appieno la fragilità dell'essere umano. Perciò, come dice Tertulliano, la maggior colpa degli atei e dei religiosi che si rivolgono a degli idoli muti è il non poter ignorare l'opera di Dio e far tacere la sua voce nella loro coscienza. Questi sono alcuni motivi perché i cristiani di ogni epoca sono fatti tacere con la persecuzione e la morte, perché vogliono far tacere la voce della verità e sostituirla con una religione muta che non turba le coscienze. Come nessuno schiaccia una zanzara solo per il piacere di schiacciarla, ma si desidera eliminarla soprattutto quando non lascia dormire tranquilli. Il cristianesimo è la zanzara per eccellenza che sveglia e provoca chi dorme nel sonno della morte. Come al tempo di Tertulliano vi erano degli scettici nell'udire il Vangelo, così anche oggi alcuni deridono del messaggio di Cristo. Cosa rispondere? Tertulliano rispose così. Volete voi che proviamo l'esistenza di Dio dalle opere sue, così grandi e belle, dalle quali siamo conservati, sostenuti ed anche atterriti? E volete che lo proviamo dalla testimonianza dell'anima stessa? Essa, benché stretta nella prigione del corpo, benché circonvenuta da una cattiva educazione, benché snervata dalle passioni e dalla concupiscenza, benché sottomessa a falsi dei, quando però torna in sé, come uscendo dall'ebbrezza, dal sonno o da qualche malattia, e ritrova il proprio senno, chiama Dio con questo solo nome, perché quello che è proprio al vero Dio, gran Dio, buon Dio, e come Dio vuole è il grido di tutti. E lo invoca anche come giudice. Dio lo vede, e mi raccomando a Dio, e Dio me lo restituirà. O testimonianza dell'anima, naturalmente. Cristiana! Infine, pronunciando tali frasi, non si rivolge al Campidoglio, ma al cielo. Essa conosce infatti la vera sede del Dio vivente, da lui e di là discende. Riflessione più che vera. In effetti, nonostante si nega l'esistenza di Dio, nonostante si disprezzi il messaggio di Cristo, le persone si appellano continuamente a Dio. Perfino gli atei incalliti. In effetti, la parola più pronunciata da molti increduli è il nome Dio, anche se ovviamente per maledirlo. Quando a qualcuno di essi ho fatto notare come del continuo pronuncino il nome di Dio, pur sostenendo di non crederci, mi hanno risposto che era solo un'abitudine, e visto che era solo un'abitudine, li ho invitati a mettere il loro nome al posto di Dio e maledirlo. Inoltre non sono poche le persone che ho visto vivere tutta la loro vita senza un minimo di spirito religioso, ma di fronte a difficoltà che li toccavano più di altre, sono diventati cristiani. Davanti ai miei occhi ho presente delle spose che hanno perso i loro mariti e dei genitori che sono stati privati dei loro figli. Il Dio dei cristiani è il Dio delle difficoltà, perché per natura, quando siamo nel bisogno, siamo inclinati ad andare. Lui, e per questo i cristiani perseguitati, spesso hanno la gioia di vedere i loro familiari increduli andare a Cristo. La sofferenza dei cristiani fedeli ha una potenza rigeneratrice senza uguali, e chi per essa esercitato diventa uno strumento spesso incosciente di salvezza per altri. Basti pensare a Stefano, il primo martire, al martirio del quale assistette anche Saulo. Il suo sacrificio è stato strumento per la salvezza di uno degli apostoli più efficaci della fede cristiana. Come sta scritto nella lettera agli Ebrei, Dio ha parlato anticamente in molti modi e in molte maniere. Perciò il Dio dei cristiani è principalmente un Dio che parla. E questo che Tertulliano tiene a specificare ai detrattori della fede cristiana. Ma perché possiamo conoscere più completamente e profondamente non solo Dio stesso, ma pur le sue leggi e le sue volontà, ci ha dato anche un insieme di documenti scritti, attraverso i quali possiamo ricercare Dio, ed una volta ricercato, scoprirlo e, scopertolo, credere, e credendo in Lui, servirlo. Infatti, fin dall'origine dei tempi, egli mandò nel mondo degli uomini degni per la loro giustizia ed innocenza, di conoscere e palesare Dio. Degli uomini dotati di spirito profetico, che proclamarono esservi un solo Dio, il quale creò ogni cosa. Formò l'uomo dal fango, e poi rese noto quali segni della potenza del proprio giudizio avesse dato mediante le piogge del fuoco celeste, quali castigli avesse predisposto per coloro che le ignoravano o le trascuravano, e quali premi per coloro che le osservavano, finché, trascorso questo nostro tempo, attribuirà ai propri fedeli il premio della vita eterna e sacrileghi il fuoco, ridonando loro la forma primitiva e passandoli in rassegna per distinguere ciascuno secondo il proprio merito. Di queste cose anche noi li demmo un tempo. Siamo infatti dei vostri. Si diviene, non si nasce cristiani. Stupenda testimonianza che echeggia ancora oggi dopo 1800 anni. Dio non parla dal cielo direttamente con una voce, ma si serve di uomini che egli ha scelto per comunicare la sua volontà. Questi uomini hanno parlato di una beatitudine eterna e di un fuoco eterno ed inestinguibile. Perché oggi si nega ciò che è stato creduto fin dalla nascita del cristianesimo? Che vantaggio ci è negare la realtà? Un atto di incredulità può annullare la realtà delle cose? È vero che credere a queste cose non è facile e Tertulliano lo comprende, perché molto onestamente ammette che anche lui, come del resto io e tutti gli altri, deridevamo questo messaggio. Poi Tertulliano dice una cosa che vale la pena ricordare per sempre. Siamo dei vostri. Che bello! Che onestà! I cristiani sono delle persone normali, come tutti gli uomini, non hanno una marcia in più o una chiamata particolare, ma sono persone che, dive Nuovo Testamento ANO cristiane, perché cristiani non si nasce, ma si diventa da adulti, mediante un atto di fede e non mediante un rito battesimale. Questo è il messaggio del Vangelo che è stato perduto nel corso dei secoli e che occorre riprendere con autorità. Se non lo si fa per zelo, lo si faccia almeno per amore di coloro che hanno dato a loro vita perché questa verità non fosse nascosta. Rispettare i martiri della fede cristiana significa anche rispettare il loro messaggio. Chi rispetta il loro messaggio rispetta Cristo Gesù. Chi rispetta Cristo rispetta il Dio Trino delle Scritture. A noi, cari ascoltatori, non resta che essere fedeli. 7. In difesa della fede cristiana, la rivelazione di Dio. Spot. Che opinione hai della Bibbia? Sapevi che la sapienza dei filosofi greci non era tutta farina del loro sacco, ma molte cose le avevano attinto dalla parola di Dio. Ne dà una bella testimonianza. Tertulliano, vissuto 1800 anni fa. Ascoltami e invita anche i tuoi amici ad ascoltarmi. Dove? Su CRCFM, naturalmente. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che Gesù Cristo premi la vostra fedeltà nell'ascoltare la parola di Dio. Abbiamo terminato la trasmissione precedente con una bellissima testimonianza di Tertulliano, scritta in un trattato a favore dei cristiani perseguitati, nella quale si afferma che Dio, che ha preparato un luogo di beatitudine per chi lo ama, e un luogo di sofferenza eterna per chi compie il male. Di queste cose, scrisse Tertulliano, anche noi ridemmo un tempo. Siamo infatti dei vostri. Si diviene, non si nasce cristiani. Poiché in questa ultima frase è racchiusa la fede cristiana, per la quale i veri cristiani sono pronti ad essere perseguitati e assassinati, leggiamo nel Vangelo di Giovanni l'affermazione dalla quale Tertulliano ha tratto la sua sintesi. Gesù è venuto in casa sua, e i suoi non lo hanno ricevuto, ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 1.1.1.13. Forse non è stato dato abbastanza rilievo a questa verità, ma i cristiani da sempre hanno creduto e professato che si diventa figli di Dio mediante un atto di fede e non mediante un rito battesimale, come insegna la religione cattolica romana. Quando considero il cattolicesimo romano, che si professa il solo ed unico seguace di Gesù Cristo, mentaci, è una stranezza di condotta simile all'induismo che mi lascia molto perplesso. L'induismo, si sa, insegna il rispetto per qualsiasi specie di vita, e per questo nella sola città di Bangkok vi sono centinaia di migliaia di cani randagi e gatti, per non parlare di ratti ai quali sono dedicati dei templi sacri. Eppure, in alcune parti della terra, l'induismo non risparmia la vita ai cristiani. Non è forse questa un'assurdità? Così è del cattolicesimo romano. Esso si avvicina a tutti, è aperto al dialogo con altre religioni come l'Islam, il buddismo, ma non tollera i cristiani, cioè quelli che professano di credere in Cristo per ottenere la vita eterna e rifiutano l'impalcatura religiosa romana. Lo ha dimostrato nel corso dei secoli e lo dimostra anche oggi. Come cristiani, avevamo chiesto al comune una piazza per predicare l'Evangelo e il sindaco non aveva nulla da ridire. Ma quando il sacerdote cattolico del rione venne a saperlo, il luogo pubblico non era più libero. Il sacerdote cattolico non è forse ritenuto un cristiano? Può un vero cristiano impedire che si predichi di Cristo? La conclusione è una sola. Chi vieta di predicare l'Evangelo non è un cristiano. Perché cristiano si diventa con un atto di fede e non con un rito battesimale come lo è stato per il sacerdote cattolico. Questa è una delle tante ragioni per le quali occorre parlare in difesa della fede cristiana come ha fatto Tertulliano e come stiamo facendo. Dopo aver chiarito in che Dio credono i cristiani, Tertulliano passa a parlare del valore delle scritture ebraiche. Quei predicatori ai quali accennammo sono chiamati profeti dalla loro funzione di predire. Le loro parole, e così pure le loro gesta, che ispiravano confidenza nella loro missione divina, sono conservati nei tesori dei libri sacri, e questi non sono nascosti. Tolomeo, soprannominato Filadelfo, re assai sapiente e gran conoscitore di ogni letteratura, richiese notizie ai giudei intorno ai loro libri, alla letteratura e alla lingua che essi soli conoscevano. I profeti, che uscivano dalle loro file, avevano sempre parlato a costoro, cioè al popolo che, per grazia ricevuta dai padri, apparteneva a Dio. Ebrei un tempo, quelli che oggi sono detti giudei, donde ebrea la loro letteratura e la loro lingua. Perché fosse possibile interpretare quei testi, i giudei aderirono alla richiesta di Tolomeo, concessero 72 esperti che lo stesso filosofo Menedemo, assertore della divina provvidenza, ammirò a causa della comunanza di opinioni. Questo ve l'ha affermato anche Aristeo. Così quegli scritti tradotti in lingua greca si mostrano oggi, con gli stessi originali ebraici, nel tempio di Serapide della biblioteca di Tolomeo. Ma i giudei li leggono sovente, anche in pubblico, pagano un tributo per godere di questa libertà. Abitualmente ogni sabato si va ad udirli. Chi li ascolta troverà Dio. Chiunque si sforzerà di capirli sarà anche obbligato a credere. È molto importante sapere o ricordare che Tertulliano sta parlando della traduzione dei testi ebraici, redatta da 72 ebrei eruditi, la quale in seguito ha preso il nome di 70, traduzione ancora oggi reperibile per chi la vuole possedere. Così, chi ha dei dubbi sulla validità dei testi ebraici può sempre verificare di persona il loro valore e rendersi conto che la parola di Dio non è un semplice libro che indirizza gli uomini verso una buona morale, ma è il messaggio di salvezza che Dio ha voluto far conoscere agli uomini. Qualcuno potrebbe dubitare dell'ispirazione della Bibbia, ma basti ricordare che in essa vi sono dei principi che non appartengono a nessuna religione o mente umana. Uno di questi è la salvezza di Dio già pronta offerta per grazia agli uomini. Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe mai pensato che la beatitudine eterna si ottenga come un dono e non per mezzo delle opere. Dato che così sta scritto nella parola di Dio, o gli uomini ispirati dallo Spirito Santo erano pazzi, o predicavano qualcosa che non apparteneva al loro scibile. L'alternativa è che il contenuto spirituale della parola di Dio sia solamente divino. Una volta compreso che la parola di Dio, cioè la Bibbia, è un libro ispirato da Dio stesso, occorre considerare il valore che essa ha, cosa che fa anche Tertulliano. La grande antichità assicura a questi documenti la loro prima autorità. Anche presso di voi, il valore della religione è provato dalla sua antichità. L'autorità di quei libri deriva dalla loro grande antichità. Infatti il primo profeta Mosè, che narrò la creazione del mondo e lo svilupparsi del genere umano, e poi la violenza distruttrice del cataclisma che vendicò le iniquità di quell'epoca ed arrivò con le sue profezie dai tempi più lontani fino a quelli a lui contemporanei. Quel Mosè che poi con le proprie azioni ha confermato ciò che aveva profetato e che attraverso la successione dell'età, ordinata fin dall'inizio, creò la cronologia del mondo, si trovò egli a vivere circa 400 anni prima che Danao, il più antico dei vostri, arrivasse ad Argo. Per mezzo di questo Mosè fu anche promulgata da Dio ai giudei la legge che è loro propria. Successivamente molti altri, i profeti, tutti più antichi della vostra letteratura, infatti anche l'ultimo di essi precedette di poco o fu almeno contemporanea ai vostri autori di maggior saggezza ed anche ai promulgatori di leggi. Visse infatti Zaccaria durante il regno di Ciro e di Dario all'epoca di Talete il sommo dei fisici che, interrogato da Creso, rispose nulla di certo potersi dire circa la divinità, e lo disse perché turbato dalle voci dei profeti. Si può dunque concludere che tanto il vostro diritto come la vostra letteratura abbiano avuto inizio dalle leggi e dalla dottrina divina. Coloro che non vogliono sapere nulla della religione dovrebbe rifiutare anche ciò che di positivo la fede cristiana ha prodotto. Se la Repubblica italiana è fondata sul lavoro, deve essere debitrice alla morale cristiana, che insegna prima di tutto a lavorare, per comportarsi onestamente con tutti e per non aver bisogno di nulla. 1 Tessalonicesi 4.11. Infatti, il buddismo vede una virtù il compiere l'elemosina. Generalmente non facciamo caso. Ma i principi della famiglia, dell'onestà, delle virtù come l'umiltà, la pazienza, l'altruismo, non ci sono stati trasmessi dall'impero di Roma o da altri popoli, ma dalle scritture ebraiche ispirate da Dio. Perciò chi rifiuta Cristo dovrebbe rifiutare anche i suoi principi morali e crearne dei nuovi. Ma dato che non esistono nuovi principi morali, chi rifiuta Cristo e mette in pratica il suo volere, dimostra che Gesù ha sempre detto il vero e il suo odio nei confronti di Gesù e dei cristiani non è giustificato, come non è possibile giustificare che in una sola nazione dell'Africa nel 1999 sono stati assassinati almeno 10.000 cristiani. Ma ciò che rende valida la parola di Dio sono le profezie contenute in essa e che Tertulliano mette in evidenza. I vostri uomini più famosi hanno adulterato, rendendo loro proprio, ciò che avevano trovato presso di noi. Anche i frutti accade di degenerare dalla semente che li ha generati. Potrei citare ancora molte altre prove dell'antichità delle divine scritture, se per prestar loro fede non derivasse maggior autorità dalla forza della verità che dagli annali del tempo. Che cosa infatti potrebbe più validamente patrocinare in favore della loro veridicità, se non il verificarsi giornalmente nel mondo intero di quegli avvenimenti, come il succedersi degli imperi, la rovina delle città, la fine delle stirpi, le diverse condizioni delle ere, che migliaia di anni prima erano stati predetti, perfettamente come accaddero. È anche da questi fatti che la nostra speranza, che voi deridete, esce rianimata, e la fiducia, che voi chiamate presunzione, è rafforzata. L'esame degli avvenimenti passati è infatti necessario a dar fiducia in quelli futuri. Le stesse voci li hanno predetti da una parte e dall'altra, le stesse scritture li hanno raccolti. Uno solo è il tempo di quelle testimonianze che a noi sembra essere suddiviso. Così tutte le cose che devono ancora avvenire sono già state verificate da noi, perché sono state predette insieme a quelle che si sono già verificate ma che allora appartenevano al futuro. Non ho ancora sentito nessuna voce che si sia elevata per screditare le profezie che sono contenute nella parola di Dio. Al massimo le profezie si possono negare ma non contraddire. Si possono ignorare ma non se ne può impedire l'adempimento. Chi infatti è in grado di impedire i disastri naturali profetizzati millenni di anni fa? Chi è in grado di impedire che sorga un capo religioso che dominerà sicuramente tutta l'Europa e il Medio Oriente? Chi sarà in grado di impedire al sole di bruciare gli uomini? Come disse Tertulliano, è saggio verificare gli avvenimenti passati per dare fiducia a quelli futuri, ma la maggioranza delle persone non vuole verificare le profezie avverate per non dover credere a quelle future. Come sta scritto, i cristiani saranno sempre più perseguitati. ma è altresì scritto che un giorno saranno liberati con il ritorno di Cristo. Non è questione di fede il ritorno di Cristo, come se Gesù tornasse solo se uno crede al suo ritorno o meno, ma Gesù ritorna anche. Per chi non crede, ritornerà comunque per regnare sulla terra. L'incredulità non annulla il suo ritorno. Siamo tutti pronti per il ritorno di Cristo? Siamo tutti in regola con i nostri peccati? Che la risposta di tutti voi, cari ascoltatori, possa essere positiva. 8. In difesa della fede cristiana a Cristo Gesù. Spot, mi fa del bene leggere cosa credevano i cristiani 1800 fa in merito a Cristo. Oggi vi sono molte opinioni su di lui, ma cosa pensavano i primi cristiani di Gesù? La tua fede di oggi in Gesù è simile a quella dei primi cristiani. Lo puoi verificare se mi ascolti su CRCFM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la benefica mano del nostro Dio sia sulla vostra vita. Sono felice che ancora oggi posso parlare a favore della fede cristiana e dei cristiani che vengono ogni giorno perseguitati, torturati, assassinati in varie parti del mondo. Non è certamente una novità e non coglie di sorpresa i cristiani, perché Gesù lo aveva profetizzato quando disse ai suoi discepoli che sarebbero stati uccisi da coloro che pensavano di offrire una cosa gradita a Dio. In effetti, il periodo feroce della persecuzione dei cristiani da parte del cattolicesimo romano fu iniziato proprio con lo scopo di onorare Dio. Anche se lo scopo dell'Inquisizione non era quello di difendere la fede cristiana, ma difendere il potere dei papi. Così succede anche oggi. Molti capi religiosi di altre confessioni religiose, come anche di quelli che si definiscono cristiani, usano dei fanatici per attaccare periodicamente i veri cristiani con lo scopo di terrorizzarli, intimidirli e forzarli a rinunciare alla fede in Cristo. Ma coloro che hanno posto una reale fede salvifica in Cristo sanno in chi hanno creduto, sanno che il giusto quando vacilli davanti all'empio è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato, perciò elevano alta la testa e chiedono ai loro aguzzini le ragioni di tanto odio. Lo fece per primo Gesù, lo fecero gli apostoli, lo fecero i primi cristiani che andavano in pasto alle belve, e lo fece anche Tertulliano, un avvocato che scrisse un'arringa in favore del cristianesimo e dei cristiani che venivano barbaramente perseguitati. Nel suo scritto Tertulliano accusa gli aguzzini di possedere un odio ignorante perché coloro che credevano in Cristo quale unico Dio venivano perseguitati e assassinati solo per il fatto che si chiamavano cristiani. Inoltre, Tertulliano accusa i detrattori della fede cristiana di avere delle procedure illegali nel giudicare i cristiani, perché mentre i criminali venivano torturati perché confessassero i loro crimini, i cristiani venivano torturati perché negassero la loro fede. In seguito, Tertulliano nel suo scritto passa a presentare la fede cristiana dimostrando che il Dio dei cristiani è il Dio accessibile a tutti, e dimostra che questo Dio si è rivelato tramite dei profeti che hanno scritto dei libri che noi ancora oggi possediamo in una unica raccolta, che chiamiamo Bibbia. In effetti la Bibbia non è un libro che contenga il pensiero degli uomini, ma è il pensare del Dio Trino contenuto in una serie di libri. Se i cristiani si lasciano perseguitare, torturare e assassinare, è perché hanno posto fede non in una religione, ma in una persona che è Dio stesso, cioè Gesù Cristo. Proprio perché Gesù è Dio, vale la pena soffrire e morire per esso? Diversamente, che senso ha soffrire e morire per un ideale, anche se questo è il più grande che esista? Il valore di una cosa dipende dal suo prezzo. Ma quante volte diamo un valore sproporzionato a certe cose? Ho letto di un bambino che è morto per recuperare una sua macchinina caduta giù per un dirupo. O di una donna morta per salvare il suo cagnolino, ma una macchinina e un cagnolino valevano proprio il prezzo di una vita? Se il valore di una cosa dipende dal suo costo, che valore ha dunque l'uomo per il quale Cristo Gesù, che è Dio, ha dato la sua vita per salvarlo dalla perdizione eterna? Ecco perché il cristiano ama Cristo Gesù e di lui parla del continuo. E questo lo fa pure Tertulliano nel suo scritto in favore dei cristiani perseguitati e torturati. Leggere ciò che un cristiano ha scritto di Cristo 1800 anni fa mi commuove. perché ho la prova che la mia fede in Cristo è quella dei primi cristiani. Anche il popolo conosce Cristo come un uomo qualunque che i giudei come tale mandarono a morte, per la qual cosa sarà agevole considerarci adoratori di un uomo. In verità noi, mentre non ci vergogniamo di Cristo facendoci anzi piacere di essere considerati fra i suoi seguaci e per tale ragione essere condannati, non la pensiamo diversamente dai giudei per quanto riguarda Dio. È perciò necessario che vi dica qualcosa di Cristo considerato quale Dio. E, stupendo leggere che i primi cristiani adoravano Gesù come Dio, che non si vergognavano di ritenerlo tale, e che era un piacere essere considerati seguaci di Cristo e per tale ragione erano condannati. Non incoraggia questa testimonianza ad essere annoverati nella lista di coloro che hanno sofferto per Cristo? E occorre ricordare che i primi cristiani soffrirono prima di tutto da parte di coloro che professavano la vera religione, furono perseguitati da coloro che credevano nel vero Dio, e cioè dagli ebrei. Che differenza passa oggi per i cristiani che soffrono in varie parti del mondo? Nell'ascoltare l'Evangelo una donna pose fede in Cristo quale unico Signore e Salvatore, e in seguito espresse il desiderio che il suo funerale fosse fatto in modo semplice da fratelli evangelici. Al funerale della sorella, con nostra grande sorpresa, trovammo il prete scortato dai carabinieri con l'ordine di non permetterci di svolgere il funerale in modo cristiano. Si potrebbe obiettare che anche un funerale cattolico è considerato cristiano, ma se lo è perché un funerale senza un sacerdote cattolico non è considerato cristiano secondo il parere del cattolicesimo? E se un funerale senza un sacerdote cattolico è cristiano, a cosa serve il sacerdote cattolico? Quale intermediario tra Dio e gli uomini? Non è forse Cristo l'unico intermediario tra Dio e gli uomini? Il sacerdote è dunque una figura inutile e vana. Uno dei temi fondamentali della fede cristiana è la nascita di Cristo da una vergine. Mi piace pensare che il messaggio della nascita virginale di Gesù sia stato profetizzato dal profeta Isaia 7 secoli prima dell'inizio della nostra era, e realizzato 2000 anni fa. Da sempre gli esseri umani sapevano che un figlio nasce esclusivamente da una relazione sessuale tra un uomo e una donna. Da sempre gli esseri umani sapevano che dopo una relazione sessuale, la donna non rimaneva più vergine. Con queste premesse, com'era possibile preannunciare che una donna vergine avrebbe partorito un figlio? Eppure Maria, secondo i racconti dei Vangeli, partorì Gesù Cristo ancora vergine. Forse, con la tecnologia a nostra disposizione oggi, questo potrebbe anche succedere, ma questo avvenimento, dichiarato in un'epoca nella quale era impossibile avere figli diversamente dal modo consueto, rende la fede cristiana unica, testimoniando che l'unica vera fede è quella ebreo-melocristiana. Proprio perché il messaggio della nascita di Gesù da una vergine era unico, Tertulliano dedica adesso molte parole convincenti. È venuto dunque colui che era stato preannunciato da Dio per rinnovare l'antica legge e ridarle splendore, il Cristo, figlio di Dio. Colui che è l'arbitro e il maestro di questa grazia e di questa legge, la luce e la guida del genere umano, era stato preannunciato come il figlio di Dio. Ma non era stato generato in modo tale da arrossire del proprio nome o della paterna discendenza. Egli non ha subito l'affronto di possedere, a seguito dell'incesto con una sorella o della violenza fatta ad una figlia o ad una sposa straniera, un padre Dio, coperto di scaglie, o munito di corna o ricoperto di piume, trasformatosi in oro come amante di Danae. Il figlio di Dio invece non ha avuto una madre a seguito di un atto impudico, ed anche quella che noi gli vediamo non si era sposata. Tertulliano si preoccupa di chiarire che l'evento della nascita di Cristo non è una favola simile a quelle che circolavano nella cultura romana. In effetti si accennava che Giove, il dio degli dèi, si mutò in drago coperto di squame per possedere Proserpina, o in toro per avere Europa, o in cigno per Leda, oppure in pioggia d'oro per Danae, ma la nascita di Gesù è stata simile a qualsiasi altro uomo, senza però l'ausilio dell'elemento maschile. Se anche questa fosse un favola, essa è la più logica e umana, dato che essendo Dio Gesù Cristo non aveva bisogno del concorso umano per essere concepito come uomo, anche se per essere tale a tutti gli effetti ha dovuto essere partorito come un qualsiasi neonato. Tertulliano continua la sua difesa in merito al cristianesimo con le seguenti parole: accettate per il momento questa favola, che è simile alle vostre, mentre noi vi mostriamo come si possa provare Cristo e chi siano coloro che hanno diffuso presso di voi delle favole di tal genere per distruggere la nostra verità. I giudei presumettero dunque, dall'umiltà dell'origine, non si trattasse che di un uomo, e lo ritennero un mago a cagione della sua potenza, poiché egli con la sola parola scacciava i demoni dagli uomini, ridava la vista ai ciechi, mondava i lebbrosi, rialzava i paralitici e perfino, sempre con la sola parola, ridava la vita ai morti, si faceva servire dagli stessi elementi, calmando le tempeste e, camminando sulle onde, mostrando di essere quel figlio, un tempo preannunciato da Dio, che è nato per la salvezza di tutti, quel verbo di Dio eterno, primogenito accompagnato dalla propria potenza e intelligenza, sostenuto dal proprio spirito. E, stupendo leggere questa testimonianza fatta 1800 anni fa in merito a Cristo, perché ancora oggi molte sono le persone che ritengono Cristo una brava persona o un guaritore, egli è considerato tale anche da chi professa di ritenerlo Dio. Lo dimostra il fatto che chi lo professa Dio non lo adora né lo serve come Dio, perché piuttosto di dare a Lui tutto l'onore, la gloria, a Lui solo il culto, a Lui solo le preghiere, molti di questi si rivolgono ancora in preghiera a degli uomini, onorano uomini come se fossero Dio o sono sottomessi alla religione che professano. Per comprendere quello che si sta dicendo, occorre un attimo uscire fuori dalla cultura cattolica romana, la quale considera il Papa il vicario infallibile di Cristo, e vederla dal di fuori. Ci sono stati dei papi che hanno scomunicato altri papi meno, e tutti erano cristiani. Altri hanno avuto figli che a loro volta sono diventati papi meno. Altri papi, come Gregorio IX, tanto per stare in tema delle nostre riflessioni, istituì nel 1227 la Santa Inquisizione, il che voleva dire di torturare e assassinare chi non era d'accordo con il Vescovo di Roma. Gli inquisitori ritenuti cristiani, anche loro meno in nome del Papa, si sono resi responsabili della violazione più selvaggia e duratura della dignità umana mai sperimentata nella storia. Come Tertulliano, l'ingiustizia procedurale del radiocattolicesimo, e non per ultimo l'errore di sostituirsi all'autorità di Cristo e alla sua persona. Perciò, la religione cattolica romana si trova ancora oggi davanti ad una scelta molto difficile. O i suoi insegnamenti sono relativi quanto quelli di chiunque altro, e nel qual caso non ha motivi particolari per essere ascoltata, oppure sono assoluti, e in questo caso il comportamento dei papi e degli inquisitori è totalmente imperdonabile. Ciò che non può fare la religione cattolica romana è rivendicare sia la giustezza assoluta sia la liceità delle colpe storiche. Il sangue dei cristiani, come quello di Abele, grida dalla terra e chiede, come i santi davanti a Dio descritti nel libro dell'Apocalisse, di fare giustizia della loro morte cruenta e ingiusta. Apocalisse 6.10. I veri cristiani condannano ignorante. E altro non aggiungo, cari ascoltatori, e vi attendo alla prossima per parlare ancora in difesa dei martiri cristiani. 9. In difesa della fede cristiana Cristo Gesù. I primi cristiani non hanno sofferto perché erano fedeli ad una religione, e neppure ad un ideale, ma perché erano fedeli a Cristo Gesù. Su CRCFM prenderemo in esame alcuni eventi riguardanti l'origine del cristianesimo. Non mancare, gentili, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. E un onore per me parlare a favore della fede del cristianesimo e dei cristiani perseguitati, ma soprattutto è un dovere morale che brucia nelle mie viscere, perché anch'io sono un cristiano e anch'io un giorno potrei trovarmi a confessare la mia fede a costo della mia vita. Nessuno di noi può essere certo di come si comporterà davanti ad una inflessibile tortura o davanti a morte certa annunciata. Ma è certo che se in un clima di serenità non si è in grado di proclamare con fermezza che Cristo è il solo ad essere adorato e servito, Molto difficilmente si potrà essere fedeli nei momenti più difficili. L'Apostolo Paolo ha avuto, causa la predicazione dell'Evangelo, una vita degna di un cristiano. E poiché stiamo considerando la sofferenza dei cristiani, prendiamo in esame la descrizione di Paolo in merito alla propria vita. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una. 3 volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sul abisso. Sono stato spesse volte in viaggio, fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente, nelle veglie, nella fame e nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. 2 Corinzi 11.2427. I primi cristiani sapevano cosa costava credere in Cristo, eppure con coraggio divino accettavano non solo l'autorità assoluta di Cristo, ma anche le conseguenze che ne derivavano. In un paese di maggioranza musulmana, l'11 maggio del 2005 alcuni cristiani furono rinchiusi nelle loro case, ad alcune delle quali fu pure dato fuoco, provocando così dei morti. Avvenimenti del genere lasciano certamente un segno e i cristiani sono pronti a morire pur di predicare Cristo a chi non lo conosce, ma forse il segno più profondo e indelebile viene dalla persecuzione da parte di quelli che si dichiarano cristiani. In effetti, Gesù non fu messo a morte da pagani o da religiosi con una fede sbagliata, ma furono i suoi stessi connazionali professanti, la medesima fede, a consegnarlo in mano ai romani perché fosse crocifisso. Dobbiamo essere convinti che il pericolo più grande per il cristianesimo non procede dagli atei o dalle altre religioni, ma da coloro che si professano cristiani, ma che di cristiano hanno solo il nome. Cristiano è colui che predica e vive l'unicità di Cristo nella sua espressione di fede. Come abbiamo detto nelle altre trasmissioni, Tertulliano ha elevato una voce forte a favore dei cristiani che venivano perseguitati e assassinati, una voce che ancora oggi è importante considerare. Nel suo scritto, dal titolo Apologeticum, Tertulliano accusa gli aguzzini di essere motivati da un odio giustificabile solo dalla loro ignoranza, perché coloro che credevano in Cristo, quale unico Dio, venivano perseguitati e assassinati solo per il fatto che si chiamavano. Inoltre, Tertulliano accusa i detrattori della fede cristiana di adottare delle procedure illegali nel giudicare i cristiani, giacché, mentre i criminali venivano torturati perché confessassero i loro crimini, i cristiani venivano torturati perché negassero la loro fede. In seguito, Tertulliano, nella sua arringa, passa a presentare la fede cristiana, dimostrando che il Dio dei cristiani è il Dio accessibile a tutti, e dimostra che questo Dio si è rivelato tramite dei profeti che hanno scritto dei libri che noi ancora oggi possediamo in una unica raccolta che noi chiamiamo Bibbia. In effetti, la Bibbia non è un libro che contenga il pensiero degli uomini, ma è il pensare del Dio Trino. Infine, nell'ultima trasmissione, abbiamo letto ciò che Tertulliano ha scritto di Gesù, ed è molto interessante vedere in che modo veniva presentato circa 1800 anni fa l'Evangelo. Anche se i fatti si conoscono, è sempre profittevole leggere uno scritto di quell'epoca. Di fronte alla dottrina di Cristo, dalla quale erano confusi i dottori e i notabili dei giudei, erano così esasperati soprattutto perché una gran folla correva verso di lui, alla fine lo denunciarono a Ponzio Pilato, che allora governava la Siria per conto di Roma, e con la violenza delle proprie richieste forzarono costui a consegnare loro Cristo perché fosse crocifisso. L'aveva predetta lui stesso che avrebbero fatto ciò, e sarebbe ancor poca cosa se molto prima non l'avessero predetta i profeti. Tuttavia, appeso alla croce, compì molti prodigi propri solo di quella morte. Infatti esalò la spirito con le sue ultime parole, prevenendo il compito del carnefice. In quell'istante il giorno scomparve mentre il sole era ancora a metà della propria corsa. Ritennero certamente trattarsi di un'eclissi, quelli che non sapevano ciò che era stato profetizzato attorno a Cristo, e non comprendendo la ragione, negarono il miracolo. Tuttavia, questo avvenimento celeste è riportato nei vostri archivi segreti. Allora i giudei, dopo aver tolto e deposto il corpo nel sepolcro, lo fecero anche sorvegliare con grande diligenza dalla guardia militare, perché, avendo egli predetto che sarebbe risuscitato dalla morte il terzo giorno, i discepoli suoi, trafugando il cadavere, non ingannassero i loro sospetti. Ma al terzo giorno la terra ad un tratto fu scossa, la grande pietra che chiudeva il sepolcro rotolò indietro, la guardia impaurita si disperdette e, mentre nessun discepolo era apparso, non vennero trovate nel sepolcro altro che le spoglie del sepolto. Continuando la descrizione della morte e della resurrezione di Cristo, Tertulliano racconta: tuttavia i notabili dei giudei, ai quali interessava diffondere l'idea di un delitto e distogliere dalla fede un popolo tributario e a loro asservito, sparsero la voce che era stata trafugata la salma dai Gesù da parte sua non si presentò al popolo per non togliere gli empi dal loro errore, e anche perché la fede destinata a non mediocre premio costasse qualche pena. Egli passò però 40 giorni con alcuni dei propri discepoli nella Galilea, regione della Giudea, insegnando a coloro che avrebbero dovuto a loro volta insegnare. Poi, avendoli investiti del compito di predicare per tutto il mondo, avvolto in una nube, fu elevato al cielo. Pilato, che già nel suo intimo era divenuto cristiano, fece conoscere all'imperatore, che era allora Tiberio, tutte queste cose intorno a Cristo. E gli imperatori avrebbero creduto a Cristo, se essi non fossero necessari per le cose di questo mondo. Oppure potessero essere ad un tempo imperatori e cristiani. I discepoli di Cristo, spargendosi per il mondo, obbedirono all'ordine del loro divino maestro e, dopo aver essi pure molto sofferto dalla persecuzione dei giudei, alla fine, con la fiducia che deriva dalla verità, seminarono con gioia il sangue cristiano in Roma, a cagione della crudeltà di Nerone. Per il momento, ecco qual è la storia della nostra religione. Noi proclamiamo con il suo autore l'origine della setta e del nome. Nessuno ci attribuisca più delle cose infamanti, nessuno pensi che vi sia qualcos'altro, giacché non è lecito ad alcuno di mentire. A proposito della propria religione, la fede cristiana è l'unica fede che cerca le sue credenziali nei fatti storici. Se Gesù non fosse morto e poi risorto, tutta la fede cristiana crollerebbe. Ancora oggi molti di coloro che si definiscono cristiani non credono alla resurrezione dei morti e che Gesù sia risorto. Eppure non si deve dimenticare che se i discepoli fossero stati i sostenitori di un ideale, avrebbero potuto stabilire una resurrezione meramente spirituale, possibile anche alla presenza del cadavere. Invece scelsero la via più rischiosa parlando della resurrezione fisica che, se non fosse stata vera, avrebbero corso il grave rischio quando il corpo sarebbe stato trovato. Ma credevano alla resurrezione letterale perché ne erano stati i testimoni. Inoltre anche il Corano attribuisce a Gesù l'unico potere di resuscitare dalla morte, una nota molto interessante sia per i musulmani sia per gli atei. Perciò chi nega la resurrezione di Gesù ha tutto il vantaggio di fare tacere per sempre i cristiani, sia con la persecuzione sia con la morte. Ma benché questo ideale sia sempre stato presente in coloro che odiano Cristo, non è mai stato e non sarà mai attuabile. Tertulliano termina la sua testimonianza in merito a Cristo in questo modo: noi invece diciamo e lo diciamo apertamente e lo gridiamo quando siamo lacerati dalle vostre torture sanguinanti, adoriamo Dio per mezzo di Cristo. Ritenetelo pure un semplice uomo, non potete negare che è per mezzo suo che Dio ha voluto essere conosciuto ed adorato. Per rispondere ai giudei dirò che essi pure impararono da un uomo, Mosè, ad adorare Dio. Per replicare i greci furono Orfeo nella Pieria, Museo ad Atene, Melampo ad Argo, Trofonio nella Beozia, che obbligarono gli uomini alle iniziazioni dei misteri. E per venire pure a voi, dominatori delle genti, fu un uomo, Pompilio Numa, che gravò i romani di faticosissime superstizioni. Si vorrà concedere allora che anche Cristo abbia inventato la divinità, e non per rendere più umani degli uomini ancora zotici e selvaggi, spaventandoli con la necessità di propiziarsi così grande moltitudine di divinità, come fece Numa, ma per aprire gli occhi a degli uomini già raffinati e fuorviati dalla stessa civiltà, in modo che essi riconoscessero la verità. Cercate dunque se questa divinità di Cristo sia vera, se sia tale che una volta conosciuta la si debba seguire e rinunziare alla falsa divinità, soprattutto quando si sia smascherata l'esistenza di un potere che, nascondendosi sotto i nomi e le immagini dei morti, non dà altra garanzia della propria divinità che certi presagi, prodigi ed oracoli. Una cosa è leggere uno scritto, altra è vivere ciò che si legge. Tertulliano sta affermando che mentre venivano torturati a sangue i cristiani testimoniavano di credere in Dio per mezzo di Cristo. Non è facile comportarsi così, e una fede che non sia pronta a pagarne il prezzo non è una vera fede, ma solo credenza e superstizione. Tertulliano pone una sfida che spesse volte ho posto anch'io. Una volta sentito il messaggio di Cristo, l'uomo è in obbligo di verificare se quello che ha sentito è vero oppure no. Se Gesù è Dio, ne consegue che gli uomini devono adeguare la loro esistenza secondo le regole che Dio ha rivelato. Come chi è buddista deve seguire le regole di Buddha e chi è un musulmano deve seguire Allah e del suo profeta. Inoltre, chi afferma di credere in Cristo, come dice Tertulliano, deve rinunziare alle false divinità. Dove sono queste false divinità in una società con elementi cristiani? Esse si trovano nei luoghi di culto cattolici, nelle nicchie. Esse vengono portate sulle spalle in processione rivestite d'oro e di fiori. Questi riti sono espressioni pagane che devono essere abbandonate da chi si professa cristiano, soprattutto, come dice Tertulliano, quando si sia smascherata l'esistenza di un potere. E questo potere è anche il formalismo religioso. Che il nostro Dio Trino, cari ascoltatori, ci dia di essere sempre fedeli a Lui. 10. In difesa della fede cristiana, amore per il prossimo spot. Amare il prossimo è il comandamento più sentito in tutte le religioni. Anche i cristiani di 1800 anni fa amavano il prossimo, ma non in teoria, bensì nella pratica. E il loro amore era un po' particolare perché... Ma sarebbe troppo lungo dirtelo ora, perciò ti aspetto in ascolto su CRCFM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che la mia felicità di appartenere a Cristo possa anche essere la vostra. In questa che è la decima di una serie di trasmissioni dedicate alla difesa della fede e dei cristiani che sono in ogni parte del mondo perseguitati, torturati e assassinati, parleremo dell'amore cristiano. È molto importante che i cristiani parlino dell'amore per Cristo e per il prossimo perché, se vi è una categoria di persone che sono perseguitate ingiustamente, sono proprio coloro che hanno posto fede in Cristo e lo hanno scelto quale unico Dio e unico Signore. In effetti, quando l'Apostolo Paolo alla fine della sua vita era a Roma e volle chiamare i suoi connazionali ebrei per parlare loro del Vangelo, questi all'oscuro di tutto dissero: «Noi non abbiamo ricevuto alcuna lettera tuo riguardo dalla Giudea, né è venuto alcuno dei fratelli a riferire o a dire alcun male di te. Ma desideriamo sapere da te ciò che pensi, perché, quanto a questa setta, ci è noto che incontra opposizione ovunque». Atti 28.2022. Dunque, i primi cristiani, sia ebrei sia non ebrei, hanno sempre trovato opposizione ovunque predicassero, e questo sia per il contenuto storico sia teologico del messaggio. Il Vangelo veniva rifiutato e odiato per il suo contenuto teologico perché presenta un Dio di amore, quando in tutto il mondo non vi è che ingiustizia, dolore, odio. Presenta la salvezza per grazia, quando questa toglie all'uomo la possibilità di guadagnarsi la salvezza mediante qualsiasi suo presunto atto di orgoglio. Inoltre il messaggio del Vangelo non presenta un Dio vittorioso o glorificato, ma un uomo Dio che muore su di una croce dove solo i malfattori e criminali venivano appesi. Se oggi, dopo 2000 anni, le cose sembrano cambiate, le soluzioni sono due. O gli uomini non sono più gli stessi, e questo è difficile accettarlo dato che odio, ingiustizie e sofferenza sono sempre presenti, oppure il messaggio dei primi cristiani è passato oggi da buona notizia ad una buona idea o un buon ideale da seguire senza nessun prezzo né vincolo morale. Purtroppo è il messaggio del Vangelo che non è più genuino, come non hanno più una fede genuina coloro che si professano cristiani. Per questo è ancora opportuno prendere in esame la fede dei primi cristiani. Fede, questa, che è presentata non solo nei Vangeli ma anche testimoniata dai primi scrittori cristiani, tra i quali Tertulliano, nel suo scritto dal titolo Apologeticum. Prendiamo in esame cosa scrisse in merito all'amore per il prossimo. Poiché una delle accuse nei confronti dei cristiani era quella di odiare gli imperatori, Tertulliano risponde nel seguente modo: noi non esercitiamo il bene con delle eccezioni per determinate persone, perché lo facciamo per noi stessi, e non per cattivarci una ricompensa di lodi o di premi da parte degli uomini, bensì da Dio, giudice remuneratore di una imparziale benevolenza. A causa dei comandamenti di Dio noi siamo gli stessi per gli imperatori come per il nostro prossimo. Ci è ugualmente vietato di volere il male, di fare del male, di dire male, di pensare male di chiunque. Ciò che non è lecito nei confronti dell'imperatore non lo è per nessuno. E ciò che non è permesso per nessuno lo è senza dubbio ancor meno nei confronti dell'imperatore, che da Dio è stato fatto così potente. Ancora oggi pochi hanno compreso che i veri cristiani non hanno un comportamento giusto pieno di amore per essere apprezzati o considerati dagli uomini, ma perché riguardano alla ricompensa divina. Secondo le leggi di Cristo, il cristiano non solo non compie il male, ma addirittura non lo può nemmeno pensare. E se non lo può nemmeno pensare, com'è possibile che un cristiano sia ingiusto o possa odiare qualcuno? Proprio perché colui che è cristiano non può odiare nessuno. L'Apostolo Giovanni vede nell'amore verso i figli di Dio una prova attestante la veridicità dell'affermazione della propria identità di cristiano. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. 1 Giovanni 3,14. Quello che Giovanni ha detto 2000 anni fa deve essere compreso. Poiché all'inizio dell'espandersi del cristianesimo, come del resto anche oggi, era molto difficile conoscere chi veramente fosse un cristiano. Una dimostrazione concreta era data dall'amore nei confronti degli altri cristiani, e non ne è, come si pensa, verso il prossimo. Il cristiano certamente ama il prossimo, ma questo lo può fare anche chi è filantropo, ossia colui che ha sentimenti umanitari, senza per questo essere necessariamente un figlio di Dio. In effetti, anche in altre religioni vi è l'ordine di fare del bene al prossimo. Perciò Giovanni afferma che può amare i cristiani solo chi è diventato cristiano, e questo non perché abbia una capacità intrinseca, ma perché, avendo ricevuto una natura divina, questa lo spinge ad amare ciò che appartiene a Dio. Dato che questa è la regola di Dio, come può un cristiano perseguitare un altro cristiano? Quando ero giovane, un datore di lavoro, prima di assumere degli operai, si rivolgeva al parroco per avere informazioni sulle persone alle quali era interessato. Se la persona in questione non era cattolica, non trovava lavoro. Erano forse cristiani, il datore di lavoro e il parroco, anche se erano battezzati. Nel difendere i cristiani che soffrono, si potrebbe cadere nella polemica, ma mettere in evidenza le ingiustizie altrui, sia che si ritengono cristiani oppure no, è un modo per evidenziare la verità e onorare coloro che hanno sofferto e sono morti per la loro fede in Cristo. Per amore della verità, Tertulliano non risparmia colpi. Se ci è ordinato di amare i nemici, chi mai potremmo noi odiare? D'altra parte, se ci è proibito di rendere il contraccambio per il male ricevuto per non divenire di fatto pari a chi lo compie, a chi mai potremmo fare del male? Potete giudicare infatti voi stessi su tale argomento. Quante volte avete incrudelito contro i cristiani, voi in ossequio alle vostre leggi, voi per i vostri personali risentimenti? Quante volte, anche al di là del vostro pensiero, il popolo a noi nemico di propria iniziativa ci assale con le pietre e le fiamme? Con lo stesso furore dei baccanali non sono risparmiati neppure i morti cristiani, poiché dalla quiete del sepolcro, da quella sorta di asilo della morte, essi, già trasformati, già non integri, vengono tratti fuori, strappati, dispersi. Anche se i cristiani non odiano nessuno, vengono odiati a tal punto che neppure da morti vengono lasciati in pace. È impressionante come nel corso dei secoli questo si sia avverato più volte. Giovanni Hus, tanto per citare un cristiano martire, venne bruciato vivo e quando le legna delle fascine e le funi furono consumate e i resti di quel corpo rimasero in catene appesi per il collo, i boia tirarono giù le membra brustolite ed il palo. Portarono altra legna per bruciarle. Ulteriormente spezzarono le ossa bastonate, fecero a pezzi la testa con dei randelli. Quando trovarono il cuore lo infilzarono con un bastone appuntito e lo bruciarono ben bene. Poi caricarono le ceneri su di una carro e le buttarono nel fiume Reno. Perché tanto odio? Perché tanta violenza da parte di coloro che si professavano cristiani e guide infallibili della verità? Vi è una spiegazione a questo? Eppure coloro che erano presenti all'esecuzione prima che Giovanni Hus morisse, l'udirono gridare forte e chiaro: «Signore Gesù Cristo, sono pronto a soffrire con grande pazienza e umiltà questa morte spaventosa, ignominiosa e crudele per il tuo Evangelo e per la proclamazione della tua parola». Dobbiamo riconoscere che una certa libertà religiosa di oggi in alcuni paesi è un fenomeno relativamente recente, ma potrebbe trattarsi di una parentesi e non di una realtà sociale stabile e permanente. Perciò i cristiani di oggi non devono stupirsi se una forma di persecuzione crudele riapparirà di nuovo. Il fatto che i cristiani abbiano scelto di soffrire spontaneamente per Cristo non deve indurre i nemici della fede cristiana a pensare che si tratti di vigliaccheria. La verità è che i cristiani soffrono di proposito per amore di ubbidienza a Cristo. Tertulliano lo dimostra in modo egregio nel seguente passaggio. «E che cosa avete tuttavia da imputare a della gente tanto concorde, quali riparazioni di offese verso degli esseri coraggiosi fino al supremo sacrificio, mentre una sola notte con poche piccole torce basterebbe largamente ad esercitare la nostra vendetta se ci fosse consentito di contraccambiare il male col male. Ma lungi da noi il pensiero che la nostra religione divina possa vendicarsi con il fuoco degli uomini, lamentarsi di sofferenze nelle quali essa viene provata. Se infatti noi volessimo agire, non dico da vendicatori segreti, ma da nemici dichiarati, mancheremmo forse della forza dei reparti e delle schiere? Siamo di ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le decurie, la reggia, il senato, il foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi, noi possiamo contare i vostri eserciti. In una sola provincia saremmo in maggior numero. Di qual guerra non saremmo capaci? Non avremmo il coraggio necessario anche se fossimo in pari di numero, noi che tanto volentieri ci lasciamo trucidare. Se di fronte alla nostra dottrina non ci fosse imposto di lasciarci uccidere piuttosto che di uccidere. Dunque i cristiani dopo 170 anni dalla resurrezione di Cristo erano tanto numerosi che potevano formare un grande esercito e ribellarsi al potere di Roma, ma se non lo fecero perché avevano ritenuto che l'amore, la pazienza, la sopportazione fossero armi più potenti della forza e dell'odio. Quando si parla di ingiustizia nel cuore di tutti, meno anche dei cristiani, visto che sono esseri umani, anche loro nasce il desiderio di farsi vendetta subito con le proprie mani, anche perché la vendetta soddisfa immediatamente il proprio desiderio di vedere ripagato il malvagio. Ma l'ordine del Dio, se l'amore di Cristo ha vinto il diavolo e la malvagità degli uomini, non esiste altra arma efficace che non sia come quella del Figlio di Dio. I cristiani non vacillano davanti all'empio perché sanno che la vittoria è dalla loro parte. Sanno che è meglio perdere apparentamene oggi per vincere sicuramente domani. Sanno che se il giusto vacilla davanti all'empio è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. È questione di fede, una fede del resto premiata abbondantemente nel corso dei secoli e della quale i cristiani di oggi hanno prova. E con questa sicurezza nel cuore, cari ascoltatori, vi lascio per aspettarvi alla prossima. 11. In difesa della fede cristiana, la politica spot. Che opinione hai della politica? È giusto esserne coinvolti oppure no? Che parere avevano i primi cristiani in merito alla politica? Sei curioso di saperlo? Sì, è un solo modo, ed è quello di ascoltami su CRCFM. Gentili ascoltatori, il diottrino della pace sia con tutti voi. Devo confessare di essere felice di Parlare in favore della fede cristiana e dei cristiani perseguitati, torturati e assassinati. Ma nello stesso tempo provare anche un profondo dolore per coloro che hanno sofferto e soffrono causa all'Evangelo. In questo duplice santo contrasto sorge anche la gioia di sapere che coloro che soffrono hanno migliori promesse e avranno una resurrezione migliore. Così l'autore della lettera agli Ebrei ha descritto i martiri che ci hanno preceduto. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri invece furono distesi sulla ruota e martoriati, non accettando la liberazione, per ottenere una migliore risurrezione. Altri ancora subirono scherni e flagelli, e anche catene e prigionia. Furono lapidati, segati, tentati, morirono uccisi di spada, andarono in giro coperti di pelli di pecora e di capra. Bisognosi, afflitti, maltrattati, il mondo non era degno di loro, erranti per deserti e monti, in spelonche e grotte della terra. Eppure tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza, mediante la fede non ottennero la promessa, perché Dio aveva provveduto per noi qualcosa di meglio, affinché essi non giungessero alla perfezione senza di noi. Ebrei 11.3-5.40. C. È il pericolo di leggere questi fatti con un certo senso di romanticismo, cioè nutrendo un sentimento di simpatia, ma distaccato dalla nostra realtà. E perché questo non avvenga, è opportuno considerare la nostra realtà più recente. Proprio in questo momento, in molte parti del mondo, migliaia e migliaia di cristiani soffrono causa la loro fede in Cristo. Stati totalitari e capi religiosi fomentano forti tensioni religiose, chiudono locali di culto, impediscono la predicazione del Vangelo che porta a salvezza. Chiunque crede in Cristo, perseguitano persone innocenti. Nel nord della Nigeria, per esempio, il 30 dicembre del 2005 hanno arrestato 8 donne cristiane colpevoli di prostituzione e condannate da un tribunale islamico ad una multa di $300 e a 10 frustrate, e questo solo perché non si erano sposate prima dei 14 anni. È possibile rimanere insensibili di fronte a tanta ingiustizia? No. O si ama, o si risponde con dell'odio. E per questo che il Dio Trino dei cristiani ordina ai suoi seguaci di non fare le proprie vendette e di vincere il male con il bene, e una delle cose che fanno parte del bene è il non vacillare di fronte all'ingiustizia, ma denunciarle e chiedere ai propri aguzzini le ragioni del loro odio e della loro intolleranza. Per comprendere il valore del messaggio del Vangelo è indispensabile calarlo nella realtà quotidiana, e niente è più idoneo di quello che Gesù ha detto nel suo sermone sul monte. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sui ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani? Altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Matteo 5:43-47. Questo solo brano dell'insegnamento di Gesù, se preso sul serio e vissuto, potrebbe cambiare il mondo intero in positivo. L'ordine di Gesù è rivoluzionario. Non solo bisogna non odiare i nemici, ma occorre avere un amore positivo nei loro confronti. Occorre avere un amore che non sia naturale, come quello di chi non conosce Dio, cioè fare del bene a chi ci fa del bene, o restituire i favori che si ricevono. Tutto questo fa parte di quell'amore innato che Dio ha infuso nel cuore dell'uomo, e in assenza del quale non potrebbe esserci convivenza. Ciò che Gesù ha ordinato è andare oltre l'amore originario ed esprimerlo anche nei confronti di coloro che ci sono nemici. Poiché questo insegnamento è vecchio di 2000 anni, ormai potrebbe anche non trasmettere novità e non fare più effetto, ma quando vediamo i cristiani perseguitati ingiustamente pregare per i loro nemici e fargli del bene, allora non si può rimanere insensibili. Fare del bene a chi ci odia, pregare per chi ci maltratta, agire oltre le nostre inclinazioni naturali rende i credenti in Cristo simili a Dio, il quale fa del bene a tutti, anche a coloro che lo hanno crocifisso. Come abbiamo considerato nelle trasmissioni precedenti, anche Tertulliano ha testimoniato del comportamento dei primi cristiani, che pur sotto tortura benedicevano i loro persecutori, e noi vogliamo in loro onore continuare a leggere la loro eroica fede. Prendiamo ora in esame l'arringa di Tertulliano, nella quale dimostra che i cristiani non hanno ragione di odiare nessuno. Avremmo potuto senza armi e senza ribellione, ma solamente allontanandoci da voi, combattervi con tale odiosa separazione. Se infatti con tanta moltitudine di uomini noi ci fossimo staccati da voi per andarcene in qualche remoto luogo del mondo, una così grande perdita di cittadini, qualunque essi fossero, avrebbe coperto di vergogna il vostro impero ed anzi l'avrebbe ben punito, abbandonandolo a se stesso. Senza dubbio vi sareste spaventati di fronte alla vostra solitudine, al silenzio d'ogni cosa, ad una specie di intontimento, quasi la terra fosse morta. Invano vi sareste domandati su chi avreste a governare. Vi sarebbero rimasti più nemici che cittadini. Ora, infatti, i nemici sono in minor numero della gran massa di cristiani, perché, essendo presenti i cristiani, avete quasi tutti i cittadini di quasi tutte le città, eppure preferite chiamarli nemici del genere umano, piuttosto che dell'errore umano. Chi dunque vi strapperà a quei nemici occulti, che ovunque devastano i vostri spiriti e la vostra salute, che noi cacciamo dai vostri corpi, senza ricompensa, senza premio? Sarebbe bastato a compiere la nostra vendetta di abbandonarvi, come un bene ormai senza padrone, a quegli spiriti immondi. Ora, senza nemmeno pensare a ricompensarla per un così grande servizio, preferite giudicare nemica quella gente che non solo non vi fa del male, ma anzi vi è utile. Noi che siamo infatti nemici, ma non del genere umano, bensì dell'errore umano. Questa riflessione è di una praticità disarmante. Tertulliano aveva fatto notare che i cristiani ormai riempivano l'impero romano, dato che erano presenti nel tessuto della società, e se era vero che odiavano l'imperatore e lo Stato, avrebbero potuto benissimo lasciare le città per andarsene altrove. In questo modo avrebbero lasciato le città desolate, in balia dei malvagi e prive di persone che, senza lucro, fanno del bene al prossimo. Non è così anche oggi? I cristiani vengono odiati e perseguitati, eppure sono indispensabili alla società perché aiutano il prossimo senza chiedere del denaro. Svolgono opere sociali di grande interesse, sanno perdonare anziché rispondere al male con il male, evitando così spese e forze inutili allo Stato, sono onesti cittadini e pagano le tasse, sono fedeli nel matrimonio non procurando vendette, tradimenti, sofferenze, ingiustizie, odio altrui. Si potrebbe obiettare che anche alcuni increduli si comportano secondo questi principi cristiani, ma questo non fa altro se non confermare che la fede dei cristiani è a favore del benessere della società. Perciò questi ultimi non possono essere accusati, meno come anche oggi avviene, di essere individui antisociali e sgraditi. Come si comportavano i primi cristiani con la politica? È una domanda che spesso mi sono posto, ed ecco che Tertulliano traccia un interessante prospetto dei primi cristiani. Parimenti, non si doveva attribuire alla nostra setta la qualificazione più o meno odiosa di fazione non lecita, giacché essa non compie nessuno di quegli atti dai quali ci si deve guardare da parte delle fazioni illecite. Se non erro, infatti, la ragione per la quale furono proibite le fazioni risiede nel desiderio di garantire l'ordine pubblico in modo che la città non si divida in partiti, turbando facilmente così, con il cozzare delle opposte passioni, i comizi, le assemblee del popolo, le curie, i pubblici discorsi ed anche gli spettacoli. Ma noi, che in verità rimaniamo assolutamente insensibili di fronte a qualsiasi desiderio di gloria o di onori, non abbiamo alcun interesse a formare un'associazione sediziosa e non vi è cosa a noi più estranea della politica. Noi non riconosciamo che è una sola patria di tutti, il mondo. E così pure non ci interessano i vostri spettacoli in quanto ci sentiamo estranei alle loro origini che sappiamo essere fondate sulla superstizione e ai soggetti stessi che vi si svolgono. Nulla infatti hanno in comune la nostra lingua, la nostra vista e il nostro udito con le follie del circo, con la licenziosità dei teatri, con le barbarie dell'arena, con la frivolezza delle palestre. Fu pur concesso ai seguaci di Epicureo di affermare una diversa verità intorno al piacere, cioè la tranquillità degli animi. In che cosa vi offendiamo noi se la pensiamo diversamente intorno al piacere? Se, dopo tutto, non vogliamo divertirci è, semmai, danno nostro, non vostro. Ma disapproviamo ciò che a voi piace. E da voi piacciono, forse, le cose che piacciono a noi? Dopo questa descrizione dell'atteggiamento che i cristiani avevano 1800 anni fa nei confronti della politica, dei divertimenti e di piaceri della società, è forse cambiato qualcosa? Non sono forse coloro che si definiscono cristiani quelli che fanno politica, che hanno luoghi di divertimento illeciti, che piacciono le cose degli irreligiosi e di altre religioni non cristiane? Dopo 170 anni dalla resurrezione di Cristo, i cristiani si distinguevano con una vita diversa dalla società e la società lo notava. Dove si notano i cristiani oggi? Cosa fanno di diverso dagli increduli? Il loro parlare, i loro piaceri producono effetto nel prossimo? I primi cristiani venivano derisi non solo per il loro credo, ma anche per la loro condotta casta e onesta. E così anche oggi per coloro che si definiscono cristiani. Se così non è, anche coloro che si definiscono cristiani non sono tali, perché cristiani non si nasce né si diventa mediante il battesimo, ma esserlo significa scegliere di praticare un cammino quotidiano con Cristo. Solo una persona che fa questo può definirsi e essere definita un cristiano. Termino qui le mie riflessioni, cari ascoltatori, per attendervi la prossima volta e parlarvi di come i primi cristiani vivevano in comunità. 12. In difesa della fede cristiana, vita comunitaria. Spot: come vivevano i primi cristiani i loro incontri? Vuoi sapere come si comportavano? Molto probabilmente in modo simile a quello dei cristiani di oggi, ma vi erano delle differenze che saprai se mi ascolti. Punto su CRCFM. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che l'Eterno benedica il vostro impegno nell'ascoltare la parola di Dio. Siamo arrivati alla 12ª trasmissione dedicata alla difesa della fede cristiana e ai cristiani che sono perseguitati, torturati e assassinati. E per me è un onore parlare di coloro che hanno sofferto e soffrono tuttora per avere l'unica colpa di aver posto una fede incondizionata e unica in Cristo Gesù, quale loro padrone e Signore. I martiri di Gesù, così come li chiama l'Apostolo Giovanni nel libro dell'Apocalisse 17.6, non sempre si vedono e non sempre la loro fede viene provata in modo cruento. Dobbiamo ricordare che il mondo del primo secolo della civiltà mediterranea era un caleidoscopio di pluralità religiosa e culturale, molto più di quella che oggi sperimentiamo in Occidente. Era completamente immerso nei miti, nelle filosofie, nell'occultismo, nei riti e negli ordini mistici, nelle speranze e nelle paure. Nel bel mezzo di tutto ciò i cristiani proclamarono una persona storica come verità finale e come unico salvatore, ed ebbero il coraggio di vivere e morire per quella fede. La nostra generazione affronta una sfida simile e dovrà pregare per avere il coraggio simile. Se i primi cristiani vinsero l'impero romano è perché furono pronti alla fine a pagare il costo più alto, piuttosto che svendere la verità del Vangelo. Il miglior modo per onorare i martiri cristiani è quello di essere dei cristiani martiri. Quando l'Apostolo Paolo disse che coloro che vogliono vivere piamente saranno perseguitati, non si riferiva solo ai martiri che depongono la loro vita, ma anche a tutti coloro che vivono nella società nella quale si trovano, parlando, pensando, vivendo in modo cristiano. L'arena di Roma nella quale venivano i cristiani dato in pasto ai leoni, oggi è rappresentata dal mondo intero. I cristiani ora hanno da combattere

Tertulliano ha detto senza mezzi termini che nulla si può avere con denaro delle cose di Dio, perciò pagare una messa a favore dei morti, pagare il sacerdote per un battesimo o un funerale, è una offesa alla fede cristiana. È vero che il tutto a volte viene considerato come una libera offerta, ma nella realtà non è vero. Non è assolutamente vero. È giunto il momento di essere onesti con se stessi. Anche un divorzio, dichiarato dalla religione cattolica romana, costa. E quanto costa? Lo dicono coloro che si divorziano, e non delle persone maldicenti. E che dire quando il cattolicesimo ha torturato e assassinato migliaia di cristiani solo perché erano contrari alle vendite delle indulgenze? E forse è cambiato qualcosa oggi. Per l'anno santo e per il giubileo del 2000 non si sono forse vendute altre indulgenze? Al tempo della riforma io non c'ero, ma nel 2000 ho visto vendere diabolicamente tante benedizioni spirituali per del denaro. Se sapessero questo, i cristiani che sono morti per Cristo si rivolterebbero nella tomba. Il denaro per i cristiani vissuti 1800 anni fa serviva solo per aiutare i poveri, i bisognosi e tutti coloro che erano in grandi difficoltà, solo come scrisse Tertulliano, a cagione della nostra religione. Chi veniva perseguitato causa la fedeltà all'Evangelo era il pupillo dei cristiani. E proprio per questo, cari ascoltatori, ho dedicato queste trasmissioni ai martiri di Gesù, di ieri e di oggi. Nonostante i cristiani si amassero aiutando i bisognosi, gli avversari del cristianesimo avevano qualcosa da dire contro di loro. Ma è proprio questa pratica di amore che ci bolla di infamia presso certuni. Vedi, dicono, come si amano fra loro, mentre essi si detestano fra loro, e sono pronti a morire l'un per l'altro, mentre essi sono pronti a scannarsi a vicenda. Quanto poi al fatto che siano chiamati fratelli, ritengo che ciò che li fa ragionare è perché presso di loro ogni titolo di parentela è sinonimo di affetto non sentito. Noi siamo infatti anche fratelli vostri per diritto della stessa madre comune, anche se voi siete poco umani, essendo dei cattivi fratelli. Quanto più degnamente allora sono chiamati e considerati fratelli coloro che riconoscono un solo Dio quale padre e si sono abbeverati alla stessa fonte di santità e, usciti dal seno dell'ignoranza, si ritraggono atterriti dinanzi al fulgore della verità. Ma forse siamo considerati meno legittimi perché nessuna tragedia divide la nostra fraternità? O perché siamo fratelli in quanto ci unisce quel patrimonio familiare che generalmente presso di voi dissolve la fraternità? Uniti così con lo spirito e con l'anima, non indugiamo a mettere in comune i nostri beni. Dopo 1800 anni, la riflessione di Tertulliano è di una attualità impressionante. In 40 anni di vita cristiana, quante persone ho visto nutrire invidia perché tra i cristiani vi è un'armonia d'amore? È vero che non tutti quelli che si definiscono cristiani si amano, ma se non si amano è proprio perché non sono cristiani. Ma coloro che hanno realizzato la nuova nascita e hanno un cammino conforme all'insegnamento di Cristo amano chi è stato amato da Cristo. Inoltre Tertulliano fa notare che i veri fratelli non sono quelli che hanno gli stessi genitori, ma coloro che hanno la stessa fede, perché il termine fratello applicato a qualcuno non è nulla se, come dice Tertulliano, non vi è dell'affetto sentito. Proprio perché tra i cristiani vi è un legame affettuoso, essi non indugiano a condividere i loro beni. In effetti, i veri cristiani accolgono in casa per leggere la scrittura e pregare persone che non conoscono, persone di cultura diversa, di età svariata, solo perché sono diventati figli di Dio mediante un atto di fede in Cristo. È vero che anche i religiosi si incontrano per leggere la Bibbia, ma non sono uniti. Quando a 21 anni divenni un figlio di Dio, mi uni subito ad un gruppo religioso, dove si leggeva la parola di Dio. Parlavo di Cristo, quale mio Salvatore, testimoniavo che con il mio atto di fede personale in Cristo avevo ottenuto il totale perdono dei miei peccati, ma essi mi dissero che disturbavo le loro riunioni e mi deridevano. Così, come cristiano, cercai altri cristiani per non essere deriso. come i cristiani di 1800 anni fa. Ricordo a proposito che a Sawa, in Eritrea, persino all'inizio del XXI secolo non è permesso possedere una Bibbia, pregare da soli o assieme e mostrare lealtà a Cristo. Però i soldati musulmani possono avere la loro copia personale del Corano e pregare in pubblico 5 volte al giorno. Quando terminerà questa ingiusta persecuzione nei confronti dei cristiani? Termino per oggi qui le mie riflessioni, cari ascoltatori, e vi attendo alla prossima per prendere ancora in esame come vivevano i primi cristiani. 13. In difesa della fede cristiana, vita comunitaria. Sput, sempre su CRCFM, prenderemo in esame il comportamento dei primi cristiani. È molto utile conoscerlo perché molti di quelli che oggi si definiscono e vengono ritenuti cristiani non lo sono. Perciò non puoi mancare al nostro appuntamento e non puoi neppure mancare di dirlo ai tuoi amici. Gli faresti un torto. Gentili, vi porgo un saluto affettuoso. Anche oggi ho il privilegio di parlare in difesa della fede cristiana e di tutti coloro che sono martiri per il nome di Gesù. Nelle 12 trasmissioni precedenti abbiamo preso in esame uno scritto di Tertulliano redatto circa 170 anni dopo la morte di Cristo, nel quale egli difende i cristiani dall'odio ingiustificato dei loro persecutori. Abbiamo ripetuto più volte nel corso delle nostre trasmissioni che cristiani non sono necessariamente coloro che portano questo nome, ma coloro che hanno avuto un'esperienza personale con Cristo che li ha condotti ad adattare il loro modo di parlare e di vivere secondo i comandamenti di Dio. In definitiva si tratta di coloro che hanno realizzato per fede una nuova nascita, i quali parlano di Cristo quale loro Signore e Salvatore e testimoniano di aver ricevuto, una volta per sempre e senza alcuna opera meritoria, il perdono totale dei loro peccati e la certezza di avere la vita eterna. Questi sono i cristiani. E vero che al giorno d'oggi serpeggia il pensiero che nessuno ha il diritto di definirsi cristiano perché nessuno è veramente degno di portare questo nome, ma questo atteggiamento di moralismo, impregnato di cattolicesimo romano e di umiltà apparentemente spirituale, non rende giustizia a coloro che sono cristiani di nome e di fatto. Se per cristiano intendiamo solo chi è perfetto, allora nessuno può darsi e può dare qualsiasi appellativo, quale per esempio discepolo credente, perché nessuno lo è nella perfezione. Ma se per cristiano intendiamo chi soffre causa la sua fede in Cristo e annuncia il divino messaggio del Vangelo della salvezza per grazia mediante un atto di fede, allora i martiri di Cristo sono sparsi ovunque, sia che li vediamo, sia che non li vediamo o ne sentiamo parlare. La domanda che ci siamo posti è: come vivevano i primi cristiani all'epoca di Cristo, degli apostoli e dei primi discepoli? Tertulliano, in uno scritto dal nome Apologeticum, accenna a quale fosse la fede dei primi cristiani e a come vivessero in comunità. Abbiamo già preso in esame la fede dei primi cristiani ed ora stiamo considerando come vivevano la vita comunitaria. I primi cristiani si trovavano per pregare, per leggere le scritture, avevano dei conduttori che li esortavano a restare fermi nella fede. Si trovavano per aiutare i poveri con delle offerte volontarie, avevano il concetto che nulla delle cose di Dio si poteva avere con denaro, si incoraggiavano a vicenda a restare fermi nella fede e mettevano a disposizione della fratellanza i loro beni. I primi cristiani erano grati a Dio di quello che avevano e per questo ritenevano di non possedere nulla, ma solo di amministrare ogni cosa. Nella sua disamina in merito alla vita comunitaria, Tertulliano continua dicendo: «Uniti così con lo spirito e con l'anima, non induciamo a mettere in comune i nostri beni. Tutto è da noi messo in comune, fuorché le mogli». A proposito di tale argomento, rompiamo la comunanza, là dove soltanto gli altri uomini sono soliti esercitarla, perché essi non si contentano solamente di propiziarsi le mogli degli amici, ma le proprie molto pazientemente prestano agli amici. Sull'esempio, credo, dei loro antenati e dei loro sapienti. di Socrate per i greci e di Catone per i romani, i quali cedettero agli amici le mogli che avevano sposate perché mettessero al mondo altrove dei figli, non so se ciò avvenisse contro il loro volere, che cosa doveva importar loro di una castità cui i loro mariti avevano... Tertulliano tocca un allargamento del matrimonio e della sessualità per dimostrare che i cristiani, anche in questo settore, sono diversi dagli altri. Tertulliano aveva fatto notare che i cristiani erano diversi nel pensare, mangiavano con sobrietà, bevevano con moderazione, tutto era in comune. Ma non le mogli. Sono forse cambiate le cose oggi, dopo 1800 anni. Non solo oggi vi è l'infedeltà nell'ambito matrimoniale, ma gli scambi di coppia sono considerati fra le esperienze più innovative e ricercate. Ho visto per televisione un servizio nel quale si parlava dello scambio del proprio partner con altre coppie. E chi intervistava si chiedeva come questo fosse possibile, che luogo avevano i sentimenti. Le risposte erano che la sessualità non aveva una sfera affettiva, ma era solo uno strumento di piacere. In definitiva, l'uomo senza una fede nel suo creatore ha ridotto la sessualità ad un puro esercizio simile alle bestie. I cristiani, che sono tali non solo di nome ma di fatto, non esaltano la sessualità come fosse sacra, ma nemmeno la riducono ad un esercizio pagano. Ma in essa trovano un momento di incontro con la persona che amano e alla quale hanno confessato fedeltà per la vita. Purtroppo, oggi vi sono persone che, pur ritenendosi cristiane, praticano una sessualità distorta. Ma non vi è nulla da stupirsi, anzi, è comprensibile. Tertulliano fa notare che il comportamento dei suoi contemporanei molto probabilmente era dettato dai loro maestri di filosofia, quali Socrate e Catone. Cosa dire allora dei papi, dei vescovi, dei sacerdoti che hanno avuto figli da innumerevoli da donne sposate e non? Possono i cattolici romani essere migliori dei loro maestri spirituali, definiti tra l'altro cristiani, e pensare che il cattolicesimo romano secoli fa ha messo a morte dei cristiani solo perché erano contro la contraccezione? Più si medita sulla vita dei primi cristiani, più si comprende il perché di tanto odio da parte dei nemici. Il comportamento giusto dei santi era un continuo giudizio nei loro confronti. Per gli avversari, eliminare i cristiani era una necessità finalizzata a rendere serena la loro vita sregolata. Come senza legge non vi è colpevolezza, così senza avere davanti agli occhi chi aveva un cammino irreprensibile a togliere il senso di colpa. In effetti, mentre le persone incredule trovavano e trovano lecita ogni cosa nella sessualità, il cristiano, secondo la testimonianza di Tertulliano, per quanto concerne il sesso non muta neppure la donna, oppure un cristiano perde la verginità solo con la propria sposa. E ancora, un cristiano, pure conservando gli occhi, non vede la femmina. La sua anima è cieca nei confronti della passione. E è difficile accettare che oggi possano essere cristiani coloro i quali non hanno regole in merito al sesso, come è difficile accettare che il sacerdote del nostro paese fosse un cristiano quando è stato visto più volte scappare dalla finestra con i pantaloni in mano, perché il marito entrava improvvisamente in casa mentre lui se la intendeva con la moglie di questo. E non sono episodi sporadici, perché in una religione dove è proibito contrarre matrimonio a chi vuole praticare un servizio religioso, è evidente che papi, vescovi, cardinali, preti e pastori si siano trovati coinvolti illegalmente nell'ambito del sesso eterosessuale, senza contare l'ambito fuori norma, perché purtroppo l'omosessualità miete non poche vittime nelle alte sfere religiose. Cosa dire? Quando l'apostolo Paolo disse che per causa vostra, come sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato fra i gentili, Romani 2.24, si rivolgeva a coloro che avevano un servizio sacro davanti a Dio e non agli atei. Perciò, rivendicare per il Papa il titolo di vicario di Cristo, quando molti di questi hanno torturato e assassinato molti cristiani, quando hanno avuto una vita più scellerata degli scellerati, inducono le persone a rifiutare ogni forma di religione e bestemmiare il nome di Dio. Se vicario, come dice la parola stessa, è chi fa le veci di un altro, colui che lo sostituisce in sua assenza, ciò lascia supporre che Cristo sia assente o presente solo grazie ai papi, vescovi o altri intermediari, e questa è davvero una suprema eresia, eresia per la quale sono morti tanti cristiani. Onorare i martiri cristiani vuole anche dire rifiutare le ragioni per le quali sono morti. Già, non servono le parole, occorrono dei fatti. Ma torniamo a Tertulliano in merito agli incontri dei cristiani. Se il motivo dei nostri conviti è onesto, giudicate da esso quale sia la disciplina del loro svolgimento. Poiché hanno origine da un dovere religioso, nessuna bassezza, nessuna immodestia vi è ammessa. Non ci si adagia prima di aver pregustata una preghiera a Dio. Si mangia quanto la fame richiede, si beve quanto è permesso dalla moderazione. Ci si satolla come chi si deve ricordare che anche la notte è destinata all'adorazione di Dio. Si parla come chi sappia che Dio lo ascolta. Dopo lavate le mani e accesi i lumi, ognuno è invitato davanti a tutti a levare un canto in onore di Dio, come può, tratto dalle sacre scritture o dal proprio spirito. Allora appare come si sia comportato nel bere. La preghiera, parimenti, chiude il convito. Poi ciascuno se ne va, non per formare delle bande di assassini o delle torme di vagabondi, e neppure imprese lascive, ma con la stessa preoccupazione della modestia e della pudicizia, con la stessa preoccupazione di chi ha preso a tavola non tanto un pasto quanto un insegnamento. Questa riunione di cristiani è, senza dubbio, da ritenere illecita, se assomiglia a quelle illecite è parimenti da condannare, se non è dissimile da quelle condannabili, se si può si incolparla per la stessa ragione per la quale si incolpano le fazioni. Ma quando mai ci riunimmo per il danno di qualcuno? Noi siamo gli stessi, riuniti come separati, tali nell'insieme quali da soli. A nessuno nuociamo, non contristiamo nessuno. Quando si riuniscono dei giusti, dei buoni, dei casti, non è una fazione, ma un'assemblea. Ecco cosa facevano i cristiani di colpevoli al tempo di Tertulliano. Lo scopo dei loro incontri era di lodare Dio con un comportamento corretto, giusto e modesto, e per questo venivano perseguitati, torturati e assassinati. Ricordo che in Cina 12 leader di chiese domestiche sono stati arrestati con accusa di riunione religiosa illegale. Si può, dopo circa 2000 anni, tacere? E, bene che religiosi, atei, calunniatori, sappiano che i veri cristiani sono gli stessi, sia quando sono riuniti, sia quando sono separati. Sono tali quando si radunano, sia quando sono soli. Non nuociono nessuno e non contristiamo nessuno. Una sola cosa però fanno i cristiani che dà molto fastidio, al punto da rimetterci la vita. Dicono la verità, predicano la verità così come la trovano scritta nel Vangelo. Essi potrebbero anche non farlo, ma due ragioni non li fanno tacere: perché è un ordine del loro Salvatore Cristo Gesù e perché amano il prossimo e desiderano che tutti ottengano la felicità eterna. Come l'hanno ottenuta loro? L'amore messo in pratica non guarda il prezzo, e come Cristo è morto atrocemente e ingiustamente, così i cristiani non possono pretendere di avere una sorte migliore. Se l'hanno migliore, la prendono come un dono. Se la sorte è simile a quella del loro Salvatore, hanno una ragione in più per essere felici. Il premio che li aspetta è incommensurabile. Che i premi celesti possano essere, cari ascoltatori, una ragione per essere e restare fedeli a Cristo. 14. In difesa della fede cristiana, vita comunitaria. Spot: come mai tante persone definite cristiane sono in prigione o sotto accusa dalla giustizia? E forse perché in realtà non sono cristiane. Che opinione avevano i primi cristiani in merito alla resurrezione? Sono domande non solo interessanti, ma utili per conoscere le radici della fede cristiana. Se mi ascolti su CRCFM imparerai tante cose come le ho imparte io. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, l'Eterno faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. Siamo arrivati alla penultima trasmissione in difesa della fede cristiana e ai martiri per la fede in Gesù. Per fare questo non abbiamo preso i giornali di oggi, meno anche se ciò che leggiamo è di una tremenda attualità, meno la stiamo meditando su uno scritto di Tertulliano redatto 1800 anni fa, dal nome Apologeticum, il suo scritto più famoso. In esso, con una rara ardente passione, Tertulliano scrive in difesa di tutte le persecuzioni, le torture e gli assassini subiti dai cristiani e che venivano perpetrati nell'impero della Roma politica, delitti poi perpetrati in seguito anche dalla Roma della sfera religiosa appartenente al cattolicesimo romano apostolico. Abbiamo considerato la condanna di Tertulliano nei confronti degli aguzzini animati da un odio ignorante, l'accusa che egli rivolge ai magistrati a causa delle procedure illegali adottate nel giudicare i cristiani perché mentre i criminali venivano torturati perché confessassero i loro crimini, i cristiani venivano torturati perché negassero la loro fede. In seguito Tertulliano nel suo scritto passa a presentare la fede cristiana dimostrando che il Dio dei cristiani è il Dio accessibile a tutti e dimostra che questo Dio si è rivelato tramite dei profeti che hanno scritto dei libri ancora oggi in nostro possesso, raccolti in un unico corpo che noi chiamiamo Bibbia. Infine, dato che i cristiani erano imputati degli incontri nel corso dei quali si sarebbero compiute cose orrende, tra le quali mangiare dei bambini, Tertulliano descrive in modo dettagliato il comportamento dei cristiani durante le loro riunioni. Come ancora oggi i cristiani di 1800 anni fa si trovavano per pregare e leggere le scritture, avevano dei conduttori spirituali provati nella fede, facevano delle offerte per i poveri e non per guadagnarsi qualcosa davanti a Dio. Mangiavano e bevevano con sobrietà. Ma, più di tutto, i cristiani erano gli stessi, sia che fossero riuniti, sia che fossero da soli. Ancora una volta, questo mette in evidenza come i primi cristiani non osservassero una religione nella quale ci si può sentire a posto davanti a Dio dopo aver osservato certe regole, ma i primi cristiani avevano posto fede in Cristo, quale Dio che vede e sente ogni cosa. In effetti, chi è cristiano solo di nome si preoccupa di seguire delle regole morali anche buone, ma non ha la consapevolezza di vivere alla presenza della persona di Cristo. Chi è un vero cristiano, invece, non ruba, non mente, perdona, è altruista, non perché deve osservare delle regole, ma perché ha deliberatamente donato e consacrato a Cristo ogni suo comportamento e parola. Cristiano è chi di Cristo ha fatto l'emblema della sua vita. Nella sua difesa Tertulliano fa presente che tra i cristiani non vi sono criminali e quanto male facciano coloro che perseguitano chi ha posto fede in Cristo. In verità nessuno pone attenzione al danno tanto reale quanto grande che subisce lo Stato. Nessuno si preoccupa del torto che deriva alla nazione quando un sì gran numero di giusti viene annientato, tanti innocenti vengono mandati a morte. Noi infatti prendiamo a testimoni i vostri stessi processi verbali, di voi che ogni giorno presiedete al giudizio di tanti prigionieri, che terminate i processi con tante condanne. Quanti criminali e per quante specie di delitti sono da voi passati in rassegna? In quei vostri verbali, quale sicario, quale borsaiolo, quale sacrilego o corruttore, ladrone delle terme, che sia al tempo stesso qualificato cristiano? Parimenti, dato che i cristiani vi sono deferiti per l'imputazione che deriva dal loro nome, qual è fra loro che sia stato anche accusato dei delitti che a quel nome dovrebbe essere associati? E, sempre dei vostri che rigurgitano le prigioni, nessun cristiano è là, a meno che non vi sia perché è cristiano. E se è là per qualcos'altro, non si tratta di un cristiano. Non esisterebbe nessuna difesa in favore dei cristiani se questi fossero delinquenti. Chi li difenderebbe sarebbe peggio dei cristiani, perché difenderebbe ciò che non è giusto. Ma Tertulliano continua col dire che i cristiani sono il benessere della società, perché con il loro comportamento giusto ed equo rendono la vita serena e giusta. Perciò, come dice Tertulliano, annientare un così grande numero di giusti e mandare a morte degli innocenti è un danno allo Stato, tanto reale quanto grande. Inoltre, è da tenere presente la serietà della fede cristiana. In un altro punto della sua arringa, Tertulliano pone la possibilità che fra i cristiani vi sia qualcuno che si comporta male. Ed ecco cosa dice subito. Ma si obietterà che anche fra i nostri, Qualcuno ha potuto allontanarsi dalle regole della disciplina. Cessa però di essere da noi considerato cristiano. Come mai oggi è cristiano anche chi ha un cammino ingiusto? La spiegazione è semplice. Perché il termine cristiano ha perso il suo significato ed è applicato a chi appartiene ad una religione. Per questo nel cattolicesimo romano e nel protestantesimo troviamo dei cristiani che di cristiano hanno solo il nome. Se coloro che si definiscono cristiani cessassero di considerare cristiano chi non segue la volontà di Cristo, onorerebbero non solo Dio ma anche i martiri di Gesù. Poiché i cristiani, quando si trovavano, leggevano le scritture, Tertulliano mette in evidenza ancora una volta il valore delle scritture con un'argomentazione ineccepibile. Anche qui mi viene in aiuto l'antichità già riaffermata della Sacra Scrittura, perché facilmente si capirà che ha ragione di tale antichità che essa fu il tesoro da cui derivò ogni successiva sapienza. Quale dei poeti, quale dei sofisti che non abbia attinto alla fonte dei profeti? Ad essa dunque i filosofi saziarono il loro genio assetato, in modo che quanto a uno preso da noi, a noi li accomuna. Mentre costoro vogliosi di gloria e di belle parole si sforzavano ad accostarsi alle nostre dottrine se trovavano qualcosa che soddisfa la loro abitudine di curiosità nei nostri santi libri se ne appropriavano, ma la scarsa persuasione del loro carattere divino non bastava a impedire loro di convincerli e non li comprendevano abbastanza. Infatti la verità tanto era semplice, tanto più lo spirito critico degli uomini disprezzava di porvi fede, e così resero incerto anche ciò che avevano trovato di certo. E non vò e da meravigliarsi se il genio dei filosofi ha sfigurato i nostri vecchi documenti. Usciti dalla loro scuola, certi uomini hanno snaturato con le loro argomentazioni personali. Conformemente ai sentimenti dei filosofi, anche il nostro piccolo recente libro. E da una sola via hanno tratto una folla di sentieri obliqui e inestricabili. Poiché le scritture degli ebrei erano più antiche dei filosofi, Tertulliano fa notare che i filosofi non dissero nulla di nuovo che non fosse detto già da Dio, e se dissero qualcosa di diverso è perché accettavano quello che a loro piaceva per i filosofi. Non è forse questo l'atteggiamento che molti hanno nei confronti della parola di Dio? Quante persone accettano tante cose scritte nella Bibbia? Quante persone accettano che Dio sia amore, che Gesù è vissuto e ha fatto del bene, che è morto in croce per salvare l'umanità? Ma questo non è il solo messaggio che proviene da Dio. Se la parola di Dio afferma che Gesù è morto per tutti gli uomini per riconciliarli a Dio, significa che tutti gli uomini non sono in comunione con Dio, che tutti sono separati dal loro Creatore. Oggi si parla di salvezza senza analizzarne prima il presupposto. La perdizione. Si parla del paradiso senza premettere il presupposto della condanna eterna. Il vero problema dei cattolici che ascoltano l'Evangelo è che essi non hanno coscienza della loro perdizione eterna, e questo grazie alle dottrine del cattolicesimo romano che insegna che tutti i neonati battezzati sono figli di Dio. Quando uno è figlio di Dio, che cosa deve temere? Se poi vi è qualche dubbio in merito alla loro salvezza, nel giorno del funerale si fa la messa, si benedice la bara e il morto. E se poi vi sono ancora dubbi, vi sono le preghiere e le messe per i morti. Come afferma Tertulliano, i filosofi religiosi non hanno forse sfigurato la verità? Vi è un altro argomento caro ai cristiani e messo in evidenza da Tertulliano, la resurrezione dei corpi. Ecco come Tertulliano difende la fede cristiana. Ma occupiamoci piuttosto della difesa della nostra tesi. Noi sosteniamo che è molto più ragionevole credere che un uomo ridiverrà un uomo, uno qualsiasi diverrà uno qualsiasi, purché uomo, in modo che un'anima della stessa natura si trasformi in un'altra, riprendendo la stessa condizione umana, anche se non la stessa figura. Ma poiché il motivo della resurrezione è la fissazione del giudizio finale, è necessario che colui che esistette si possa riconoscere per ricevere la sentenza di Dio circa le proprie benemerenze o il proprio demerito. Saranno perciò fatti comparir davanti a Dio anche i corpi, anzitutto perché l'anima sola senza una materia stabile, cioè la carne, non può sentir nulla, ed in secondo luogo perché tutto ciò che nel giudizio di Dio le anime debbono patire, lo meritarono unite ai corpi entro i quali esse sempre agirono. Ma in qual modo? Direte, la materia una volta dissolta può essere riprodotta. Considera te stesso, o uomo, e troverai la ragione di credere. Ripensa a ciò che tu eri prima che esistessi. Proprio nulla. Te ne ricorderesti, infatti, se tu fossi stato qualcosa. Se tu dunque non sei stato nulla prima di esistere, e parimenti nulla sarai dopo morto, perché non potresti di nuovo esistere dal nulla, per il volere di quello stesso autore che volle tu esistessi dal nulla. Niente di straordinario. Per te non esistevi e sei stato creato, e di nuovo, quando non sarai più, risarai di nuovo. Il tema della resurrezione ha sempre affascinato l'uomo, e la parola di Dio dice espressamente che un giorno tutti gli uomini risorgeranno e avranno un corpo nuovo, i salvati un corpo glorioso, i perduti un corpo ignobile. Questa verità veniva predicata 1800 anni fa, e tuttora i cristiani la predicano. Tertulliano fa notare il ragionamento illogico di chi non crede alla resurrezione, perché se siamo venuti all'esistenza dal nulla, molto più facilmente potremo avere un corpo dato che questo lo abbiamo già ricevuto. Ma il discorso della resurrezione non è un tema accademico tanto per parlare di cose future, ma è stato predetto da Dio perché ogni uomo abbia la possibilità di prepararsi ora per incontrare il suo Dio. E adesso che occorre mettersi in regola davanti a Dio e non dopo la morte, come alcuni sperano. Chi non ha trovato qui e ora perdono per i propri peccati, non sarà neppure perdonato dopo la morte. Chi crede a questo messaggio predicato da migliaia di anni? Che nessuno dei miei ascoltatori sia privo del perdono di Dio. 15. In difesa della fede cristiana meno il martirio. Spot, ti aspetto su CRCFM, perché parleremo del martirio dei primi cristiani. Non è una trasmissione di sola informazione, ma è anche utile per fortificare la fede a chi testimonia di Cristo. Dopo avermi ascoltato non sarai più lo stesso. Il risultato è garantito. E allora, dillo anche ai tuoi amici. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, che lo sguardo pietoso del nostro Dio sia sulla nostra vita. Siamo arrivati all'ultima delle nostre riflessioni in difesa della fede cristiana e dei martiri di Gesù. Abbiamo dedicato queste trasmissioni in modo particolare a coloro che oggi in varie parti del mondo soffrono a causa la loro fede in Cristo, sia per mantenere viva e alta la fede cristiana, sia perché il mondo sappia che la risposta ai problemi della nostra società e la ragione di tanta divisione e guerre è la persona di Cristo. Due aspetti, questi, che i cristiani da sempre hanno tenuto in considerazione. Nella scrittura si legge infatti, ecco io pongo in Sion una pietra angolare, eletta, preziosa, e chi crede in essa non sarà affatto svergognato. Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per coloro che disubbidiscono, la pietra, che gli edificatori hanno rigettato, è divenuta la testata d'angolo, pietra d'inciampo e roccia d'intoppo che li fa cadere. Essendo disubbidienti, essi inciampano nella parola, e a questo sono altresì stati destinati. 1 Pietro 2.6.8. Dunque Cristo è il grande spartiacque nel mare delle religioni, è una pietra angolare sulla quale l'uomo può e costruisce con sicurezza la sua fede, ma nello stesso tempo chi non lo accetta come l'unico Dio e l'unico Salvatore, diventa la pietra nella quale l'uomo inciampa e cade rovinosamente. In definitiva, o Cristo salva, o è ragione di perdizione, o Cristo è la pace, o diventa ragione di guerra, o Cristo è la luce, o tutto intorno all'uomo è buio. Proprio per questa unica ed universale caratteristica di Cristo, i cristiani sono pronti a morire per Lui anche con le più profonde sofferenze. Come abbiamo detto fino ad ora, circa 1800 anni fa, si è elevata l'accorata voce di Tertulliano per dimostrare che l'odio indiscriminato verso i cristiani era innanzitutto frutto di ignoranza e che le procedure legali nei loro confronti spesso erano ingiuste. Nel suo libro Apologeticum Tertulliano dedica molto spazio per spiegare qual è la vita comunitaria dei cristiani, qual è la loro fede, quali sono i loro obiettivi. Nonostante che in ogni epoca i cristiani siano stati irreprensibili, spesse volte sono stati barbaramente assassinati da parte non solo degli increduli, ma dalle stesse persone che si definivano cristiane. Questa è una grossa vergogna, incancellabile nella storia del cristianesimo. Una vergogna che non è detto che non si debba ripetere da parte di una religione mondiale la quale riterrà i veri cristiani come nemici della pace e della società. Così si ripeteranno gli stessi errori commessi nel corso dei secoli e l'arringa di Tertulliano tornerà ad essere di un'attualità impressionante. Va detto e ripetuto chiaramente che i cristiani sono coloro che soprattutto non hanno una loro morale, una loro filosofia, un loro parere in merito ai problemi che aggravano il mondo intero, ma hanno accettato i pensieri di Dio e li hanno fatti propri. Per questa ragione i cristiani accettano senza riserve ciò che afferma la parola di Cristo in merito a Dio, alla vita presente e alla vita futura, fosse anche a costo del martirio. Ed è proprio con affermazioni riguardanti il martirio che Tertulliano termina la sua disamina. Dunque, voi dite perché vi lamentate se vi perseguitiamo, dato che desiderate la sofferenza. Non dovreste piuttosto amare coloro che vi consentono di soffrire come voi volete? Certo, lo vogliamo, ma allo stesso modo della guerra che nessuno sopporta volentieri, per i terrori e i pericoli che reca con sé. Tuttavia si combatte con tutte le proprie forze, e chi si lamentava del combattimento, una volta raggiunta la vittoria, ne gode per la gloria. Ed il bottino che ha conquistati. Il combattimento è per noi l'essere tratti davanti ai tribunali, dove, col pericolo della nostra testa, combattiamo per il trionfo della libertà. Orbene, è una vittoria ottenere ciò per cui si è combattuto. E questa vittoria ha per effetto la gloria di piacere a Dio ed il bottino della vita eterna. Ma noi soccombiamo, certamente, dopo aver vinto però, perché noi vinciamo quando siamo uccisi, o, in altre parole, evadiamo quando soccombiamo. Chiamateci pure gente da sarmenti e da palo, poiché voi ci legate ad un palo formato da una mezza asse con un giro di sarmenti allo scopo di bruciarci. Questo è il genere della nostra vittoria, questa la nostra tunica palmata. Su tale cocchio celebriamo il nostro trionfo. È dunque naturale che noi non torniamo graditi ai vinti. È naturale che ci dichiarino disperati e pazzi. Ma questa disperazione e questa pazzia, presso di voi, quando si tratta della gloria e della fama, fanno innalzare lo stendardo del coraggio. I cristiani, dopo 170 anni dalla resurrezione di Cristo, accettavano le torture e il disprezzo come strumenti di vittoria, perché di vittoria si poteva parlare, mentre nella cultura greca il vittorioso era chi dominava il prossimo. Per i primi cristiani il vittorioso era colui che soccombeva come Cristo in croce, per ottenere in seguito ciò per cui si era combattuto, cioè la libertà dalla schiavitù del male su questa terra, e la beatitudine eterna dopo la morte. Leggere la sorte dei cristiani al tempo di Tertulliano mentre si è seduti su di una poltrona al caldo durante l'inverno, al fresco durante l'estate, non rende pienamente l'idea di quanto costi il prezzo della fede cristiana, ma riuscire ad immedesimarsi nell'essere legati con le braccia dietro alla schiena ad una tavola di legno. Nella sua arringa, Tertulliano ricorda i magistrati che uomini famosi come Muzio Scevola, Attilio, Regolo erano ammirati per il loro coraggio di soffrire, e si chiede come mai i cristiani non hanno il diritto di soffrire per una causa più che giusta. Soltanto per la patria, per il territorio, per l'impero, per l'amicizia è permesso di soffrire quanto non è concesso per Dio. E tuttavia a tutti costoro erigete delle statue, dedicate dei ritratti, incidete delle iscrizioni per immortalarli, in quanto vi è ben inteso concesso da tali monumenti, assicurate a costoro una specie di resurrezione. E colui che attende la vera resurrezione da Dio, se per Dio soffre, è un insensato. Ma su via, buoni governatori, molto più stimati dal popolo, se gli torturateci. Condannateci, schiacciateci, la prova della nostra innocenza sta nella vostra iniquità. È per questo che Dio soffre che noi soffriamo queste cose. I tempi non sono cambiati. Se una persona consacra la sua vita per un ideale umano, se soffre per ottenere una gloria umana come una corona nell'ambito dello sport, viene onorata, osannata. E ricordata oggi mediante circoli culturali o strade del paese che portano il suo nome. Se invece qualcuno soffre causa l'Evangelo o il regno di Dio viene disprezzato, schernito e ritenuto pazzo. Inoltre, per la causa di Cristo, anche oggi i cristiani vengono trattati ingiustamente e assassinati. In un'isola dell'arcipelago indonesiano, nel 2005, tre ragazze cristiane, una di 14 e due di 15 anni, sono state attaccate mentre si recavano a scuola e poi decapitate. Una delle teste è stata trovata davanti ad una chiesa, e accanto ad ogni testa una scritta minacciava che altre 100 ragazze cristiane avrebbero fatto la stessa fine. Ma si è reso grazie a Dio perché questo comportamento ingiusto torna a vantaggio di chi ha posto fede in Cristo, perché, come dice Tertulliano, la prova della loro innocenza sta nell'iniquità di chi li maltratta. Questa riflessione deve essere presa sul serio perché non sempre è possibile comprendere quando si sbaglia, ma se chi giudica e condanna è motivato dall'odio e da procedure illecite, significa che chi è giudicato e condannato si trova nel giusto. Immolate dei cristiani, crocefiggeteci. Dopo aver ampiamente svergognato gli schernitori della fede cristiana, Tertulliano termina magistralmente la sua apologia con queste parole. Eppure a nulla servono le vostre più ingiuste crudeltà, sono piuttosto un'attrattiva per la nostra setta. Noi diventiamo più numerosi tutte le volte che siamo falciati da voi, il sangue e il seme dei cristiani. Molti di voi esortano a tollerare il dolore e la morte, così Cicerone. Seneca. Tuttavia le loro parole non trovano tanti seguaci quanti ne trovano i cristiani che insegnano con l'azione. Quella stessa testardaggine che voi ci rinfacciate è un insegnamento. Chi infatti alla vista di tale ostinazione non si sente turbato e non ricerca che cosa vi sia in fondo a questo mistero? Chi in quando l'ha scoperto non si accosta e quando si è accostato non desidera di soffrire per acquistarsi intera la grazia di Dio per ottenere il perdono completo in cambio del proprio sangue? Ogni colpa infatti con quel sacrificio è condonata. Ed ecco perché vi ringraziamo per le vostre sentenze. La differenza fra le cose divine e le umane è che, mentre noi siamo da voi condannati, siamo assolti da Dio. Nonostante i cristiani soffrano, nonostante siano perseguitati, torturati e messi al palo e bruciati, vivi, Tertulliano e con lui i cristiani di ogni epoca sono riconoscenti ai loro persecutori per le sentenze ingiuste, perché in questo modo offrono la possibilità di avere un'entrata sicura nella beatitudine eterna. I cristiani sanno che non vi è nessun sacrificio umano, per quanto grande, in grado di rendere degna una persona di andare in cielo, ma hanno compreso che la vita eterna si ottiene non solo a parole, ma anche con i fatti. Perciò essere perseguitati per il nome di Cristo è un'ulteriore garanzia di appartenere per sempre a Cristo e una dimostrazione di fede genuina e salvifica. E proprio nella sofferenza ingiusta che il giusto non vacilla davanti all'empio, non è come una sorgente torbida e un pozzo inquinato. Tertulliano conclude il suo scritto esprimendo due verità che ancora oggi, a distanza di 1800 anni, sono attuali e pietre miliari per il cristiano. La prima verità è che il sangue dei cristiani è il seme della Chiesa, il che vuol dire che più i cristiani soffrono e muoiono per la causa di Cristo, più persone diventano cristiane. A questo proposito, voglio onorare la memoria di un figlio di Dio. In Iran, il 22 novembre del 2005, è morto il primo martire cristiano tra il popolo turcmeno. Tre uomini lo hanno circondato. Quello di fronte gli ha infilato un coltello nel ventre, quello dietro lo colpiva alle spalle e il terzo gli ha tagliato la gola. La persecuzione è continuata anche dopo la morte, perché i capi religiosi turcmeni hanno impedito che fosse seppellito nel cimitero locale e che fosse celebrato in pubblico la cerimonia funebre. Non possiamo dimenticare questi martiri per la fede, perché non che è futuro per chi dimentica il passato. Inoltre, i cristiani sanno che, mentre sono condannati dagli uomini, sono assolti da Dio. Questo mette in evidenza due caratteristiche di chi ha posto una totale e incondizionata fede in Cristo, ossia tenere gli occhi fissi in cielo, dove il grande giudice Cristo Gesù giudicherà ogni cosa nascosta, sia di bene sia di male, e anche compiere ogni cosa come se si operasse per Cristo Gesù. Qui sta il segreto della vita cristiana. Qui sta il segreto dei martiri di Gesù. Che il nostro Dio, cari ascoltatori, ci dia sempre di imitare la fede dei martiri di Gesù. Contributo. Compendio del pensiero cristiano, voce della Bibbia, Tony Lane. Cristianesimi, Mino G.B.U., Giancarlo Rinaldi.